Pietro Angelini, Anna Maria Rivera e io che presiedo e alla fine vi do la parola. Siamo per una ragione costanza, vedrai. Se c'è costanza può dare il là, dove è costanza? Ecco, vuole dare il là a questa serata con una lettura di un passo di Ernesto De Martino. Facciamo così, ogni tanto, magari può usare quel microfono lì. Faremo alcuni brevi intermezzi perché la voce, questa colonna sonora di Ernesto De Martino ci sia presente. Fallito il tentativo risorgimentale di creare la nazione culturale italiana, noi siamo oggi in presenza di un secondo grande tentativo di portata decisiva e che si è iniziato con la Resistenza. Questo secondo tentativo di unificazione culturale, di formazione di una nuova unità popolo intellettuale, ha due aspetti distinti. Da una parte assistiamo a un blocco del folklore progressivo, legato alle esperienze della Resistenza, dell'occupazione delle terre, dell'occupazione delle fabbriche, eccetera, eccetera. Dall'altra parte, tutta una schiera di intellettuali democratici, avvertendo come già esaurito il destino espressivo della cultura tradizionale, cercano di istituire salti legali con l'umanesimo popolare e di inaugurare un secondo dialogo con gli uomini semplici. Cristo si è fermato ai continenti, le terre del sacramento di Diomine, il cinema neorexista di De Sica, di Visconti, di De Santis, le tele e i semi di Tuso, di Tuttocato, di Mazzullo, di Ricci, il rifiorire della poesia dialettale di Van Antò, di Eugenio Cirese, di Rocco Sotellano, eccetera, appartengono proprio a questo movimento. Si sta quindi determinando, sia pure con lentezza e fatica, con deviazioni e orrori, quel processo di unificazione della cultura nazionale che fu indicata come compito da Gramsci e che ora sta davanti a noi non già come un programma astratto di alcuni letterati, ma come fatto spontaneo che l'esperienza nazionale e popolare della Resistenza ha iniziato e alimentato. Nella concretezza di tale processo storico, che metterà a capo attraverso vie e modi imprevedibili al nuovo umanesimo socialista, deve essere valutata la questione del dialetto, o più esattamente il problema del valore e della funzione della letteratura dialettale nel momento presente della vita culturale nazionale. Che cosa esprime oggi la letteratura dialettale dei canti popolari progressivi e della poesia dialettale? Esprime nel folklore progressivo l'unico modo storicamente possibile per cui alcuni strati delle masse popolari in movimento possono prendere culturalmente contatto con la loro storia e con il loro destino, esprimendo letteralmente il loro mondo. Ma io entravo nelle case dei contadini pugliesi come un compagno, come un cercatore di uomini e di umane dimenticate di storie, che al tempo stesso spia e controlla la sua propria volontà e che vuole rendersi partecipe assieme agli uomini incontrati della fondazione di un mondo migliore, in cui i migliori saremmo diventati tutti, io che cercavo e loro che ritrovavo. L'essere tra due compagni, cioè incontrarsi per tentare di essere insieme in una stessa storia, costituiva una condizione del tutto nuova rispetto al comune della ricerca etnologica, cioè al fine di rammemorare anche quella loro storia passata che non poteva in modo immediato essere attuale e comune e che in ogni caso era da cacciare lontana, da sopprimere. Grazie Costanza, quest'ultimo intervento a me mi commuove tutte le volte, è una specie di suonata d'organo di Bach o qualcosa di questo genere per l'antropologia e come lo vissuta io. E adesso la parola ad Antonio Panelli. Allora, il mio intervento sarà maggiormente di carattere storico, perché io ho studiato il tema del folklore progressivo per i miei studi di laurea su Alberto Mario Cirese in quegli anni, e per una ricerca che poi ho condotto presso l'Istituto Ernesto De Martino sui carteggi tra Cirese e Gianni Bosi. Quindi questo tema l'ho incontrato non come protagonista, perché sono nato 30 anni dopo il dibattito sul folklore progressivo, ma l'ho incontrato studiandoli all'università nel 2000. Ecco, quello che mi ha colpito è che nel percorso di Ernesto De Martino, nel periodo storico, il tema del folklore progressivo è un concetto esplicativo, cioè forse minore, meno importante, è soltanto un tassello di un'azione culturale e politica di Ernesto De Martino, che invece ha avuto grande influenza in quella fase. Cioè, l'idea che esista un folklore progressivo non è stata sviluppata a fondo da Ernesto De Martino, si è trattato più che altro di interventi sulla stampa di sinistra che cercavano in qualche modo di invitare i partiti di sinistra ad avere un atteggiamento più aperto verso il protagonismo sociale che c'era nella base, quindi di favorire le ricerche empiriche sul mondo contadino e operaio e di avere una politica culturale che fosse meno verticistica. Ecco, questo è stato il ruolo forse del folklore progressivo, perché se guardiamo l'opera di Ernesto De Martino, all'opera di Ernesto De Martino, il tema del folklore progressivo non ha avuto un rilievo così importante. E quindi appunto va collocato in una serie di saggi del periodo della militanza politica più attiva, più forte di Ernesto De Martino. Perché ecco, per tornare proprio alla cronologia dei fatti, il folklore progressivo è un tema che viene lanciato da Ernesto De Martino nel 51. Nel 51 Ernesto De Martino è in una fase molto particolare del percorso suo, perché dal 46 al 50 è stato un funzionario di partito, cioè non era ancora uno studioso universitario, era come ruolo più importante un funzionario di partito del Partito Socialista, e il suo incontro a Bari con i contadini pugliesi che vogliono entrare nella storia, penso che ci ha appena detto Costanza, avviene come studioso certo, ma come funzionario socialista. Nel 51 Ernesto De Martino vive una fase di passaggio, quindi dal Partito Socialista al Partito Comunista. E a me ha colpito molto che De Martino diventi comunista proprio nel momento in cui il Partito Comunista lo ha attaccato duramente sulla rivista Società. Un filosofo di grande rilievo, Cesare Lupolini, attacca un suo saggio molto importante. Il saggio si chiama Intorno a una storia del mondo popolare subalterno, e parla quindi dell'illusione della storia di questi gruppi di persone che finora non erano stati considerati né come oggetto di studio né come protagonisti della vita sociale. E quindi appunto De Martino entra nel Partito Comunista proprio mentre il PC lo attacca, e proprio mentre all'interno del Partito Socialista il leader cui lui era stato più vicino, che era Nerio Basso, veniva duramente emarginato dalla vita politica del Partito Socialista in quanto antistalinista, perché in quegli anni il Partito Socialista è l'unico dei partiti socialisti d'Europa che sceglie lo stalinismo, quindi che in nome dell'unità della classe operaria sceglie appunto la linea guida della fedeltà all'Unione Sovietica. E questo un po' si sente anche negli scritti di Ernesto De Martino sul folklore progressivo, quando tira in mezzo l'etnologia sovietica. Ecco, una riflessione approfondita sull'influenza dell'etnologia sovietica sul concetto del folklore progressivo diciamo sarebbe una pista ulteriore. Dico appunto che il folklore progressivo non è un concetto chiaro, perché appunto non è chiaro se accanto al progressivo ci sia un folklore regressivo, non è chiaro se si tratta di un utilizzo in senso progressivo del folklore. In alcuni casi si parla della poesia del dialettale, dell'alta cultura, non si capisce qual è il ruolo che viene assegnato, se l'alta cultura deve storicizzare, se la poesia dialettale deve incorporare il folklore progressivo. Ecco, quindi se come concetto non è uno dei punti di forza del pensiero di Ernesto De Martino, Questo invece è un tassello di una serie di scritti di carattere più politico che scientifico, che invece hanno una grande importanza in quella fase nell'influenzare il percorso di un giovane etnologo, allora, che era Alberto Maricese, che ha 13 anni prima, è del 21, Ernesto De Martino del 1908. Quindi questi scritti hanno una certa importanza su un filone socialista che ha una certa attenzione verso il mondo popolare, a differenza invece del Partito Comunista, che mantiene sempre un atteggiamento in questi anni di forte ostilità nei confronti degli studiosi che cercano di allargare lo sguardo sul tema della cultura popolare, della cultura operaria. Nel 49 il PC favorisce la chiusura, cioè la cacciata di Gianni Bosi dalla rivista Movimento Operaio, poi ci saranno le dure stroncature per Carlo Levi prima, perché si è formato Eboli, per Rocco Scodellato e per Pasolini come studioso di poesia tradizionale. Ecco, quindi secondo me, se non c'è stato se De Martino non ha proseguito nel filone dell'approfondimento di questo tema, il folklore progressivo, è perché nell'area politica di riferimento sua, quella socialista e comunista, non c'è stata assolutamente un'attenzione alle sue idee in quella fase. Ecco, ora diciamo che spesso si è detto dell'isolamento di Ernesto De Martino, forse diciamo va capovolto, cioè il discorso, forse c'è un maggior isolamento adesso dell'isolamento polonici rispetto a quando mi scriveva Ernesto De Martino, comunque era ospitato su riviste e quotidiani di grande importanza, forse è più marginale adesso questo discorso. Comunque, per ritornare al tema del folklore progressivo, nel 51, quando Ernesto De Martino pubblica 6 articoli, non c'è nessuno sulla stampa del Movimento Operaio che risponde. Cioè, nel caso del saggio sulla irruzione nella storia del mondo popolare sul quaterno, c'è Cesare Ugolini, quindi ha un interlocutore di grande rilievo. Quando parla del folklore progressivo non c'è neanche un articolo, quindi il fermo viene completamente sottaciuto. Ecco, quindi cioè, diciamo che come concetto teorico il folklore progressivo non ha avuto poi un rilievo importante proprio nella storia degli studi in generale. L'influenza che ha avuto, l'ha avuta su Ciresi in quegli anni, l'ha avuta in generale sul nuovo canzoniere italiano come attenzione al tema del canto sociale. Però ecco, Boso, il nuovo canzoniere italiano, non utilizzeranno mai il tema del folklore progressivo. Qui c'è Bermani, c'è anche Ivan che appunto vi racconteranno l'esperienza del nuovo canzoniere. Ecco, quindi diciamo, credo che il folklore progressivo vada collocato come un tassello di un'azione politica e culturale molto importante in quegli anni, e forse diciamo, è stato solo grazie ai testi degli anni 70, i testi del professor Pietro Clemente, del professor Pietro Angelini, che lo hanno tirato fuori come tema specifico. Mi ha colpito molto che nell'intellettuale rovesciato Gianni Bosio, quando diciamo, riconosce il ruolo dell'impegno civile nell'opera del Ernesto De Martino, riconosce l'influenza della corrente meridionalista, anche se il termine forse non è appropriato, del dopoguerra, non fa mai un esplicito riferimento al folklore progressivo. Nell'intellettuale rovesciato questo termine non viene mai menzionato. Ecco, non so se ho sperato già con i tempi. No, ecco, credo che come diciamo ricostruzione del contesto storico, se non mi fermo qui, poi eventualmente aggiungo delle altre cose dopo. Va bene, grazie Antonio. Poi parlo dopo, non possiamo aspettare. Io scelto, è da molto che ho scelto, 7 scritti molto brevi, vorrei provarli, però tutti c'è una ricetta. Non è che ce l'hai tu, Forse è ancora. Vediamo un po' se no. No, io da anni vivo un dramma grande, perché per le varie vicende della mia vita mi è capitato di lavorare per il calendario del popolo, diretto da una pastorale abbastanza mitico, credo, che è comunque che parla della cultura popolare, che è stato anche in una certa misura basato a quel tempo di populismo, si chiamava Giulio Trevisani, e Giulio Trevisani, che mi aveva un grande affetto, un giorno, una mattina venne da me, questo napoletano, questo internazionalista, principe del popolo di Napoli, creatore del calendario del popolo, grande esperto del teatro di massa, storico, perché poi scriverà anche la storia d'Italia, tutto sommato abbastanza importante, pubblicato da Resistenza Avanti, vedete con un sorriso luminoso e mi dice io vale tutta la notte che ti penso, ma poi ho cominciato già a preoccupare subito. Mi è venuta un'idea meravigliosa, ho pensato e mi era merato questa cosa del stabilimento di quest'idea. E tu dai Giulio, dimmi la cosa di quest'idea, è un lavoro per te di un'importanza, ma dimmi che lavoro è. Ti affido l'archivio del calendario del popolo. E io gli dissi, tu dai anche a mica. Quello che sto vedendo chiaramente cos'è una catarsi, cioè io chiaramente la persona meno indicata a fare qui il presidente dell'Istituto del Resto del Mezzo. Comunque adesso che mi ho trovato, mi vedo, anzi, ho fatto molto chiedere perché sono mia voce. Allora questo testo che ho detto adesso, io credo che sono già fatto anche tutte le teste che mi capita di fare, che sia un testo dell'unità. Adesso non mi chiamano più perché non c'è neanche più, non abbiamo neanche più per nessuna sorpresa, oppure le fondazioni o anche di diversi. Non leggo sempre questo pezzo, tratto di essere comunista. Essere comunista vuol dire essere umano, rinnovare in termini moderni l'esperienza paolina. Io su questo ho qualche dubbio perché San Paolo non è stato molto simpatico. Sono diventato tutto con tutti per tutti fare salvi, questo credo che abbia detto Gesù Cristo. Essere comunista vuol dire volgersi al mondo dei poveri, dei semplici, e quella parte dell'umanità che gli uomini cercano di mantenere fuori dalla storia, che vive orfana nella nostalgia di una cultura che sta come un al di là vago e misterioso. Essere comunista significa sentire la vergogna, anzi la colpa, di tutto lo spirito che potrebbe essere che non è, di tutta la bellezza deviata, di tutta la verità rimasta per la strada, di tutta la vita morale soffocata, di tutta l'umanità e la cultura insidiate a cagione del modo di esistere e della società, questo mi pare una qualità sconvolgente. Perché, virgolette, meglio che fosse morto l'Atinello e non il Babbo. Quando nascesti tu, tua madre non c'era. Un nuovo umanesimo si tenta davanti a questa espressione del dolore proletario, che cosa propriamente colpisce in essere, appunto l'umanità che vorrebbe essere e che non può essere, perché un, non si capisce la parola, questo è stato messo decreto, ma decrato, ma poi tra parentesi c'è anche una forma storica di società che impedisce di essere, una della pietà filiale, quella pietà per cui il Papa ha chiamato Papa, è costretta a recedere davanti al denaro attaccamento per l'Atinello, che a me trasporta la legna, mentre il vecchio babbo è un peso improduttivo. Onde l'affetto della mamma verso l'infante che muore per l'infante, prende coscienza di non essere libero, ma come vulnerato dalla fatica bestiale e che non lascia tempo a dispiegarsi della piena umanità della madre, quando tu nascesti figlio mio, tua madre era al lavatorio a lavare i panni, tua madre non c'era. Io ho scritto un libro che sicuramente avrei scritto sul mondo del Martignano, se nasco un'altra volta ci rinuncio. È il dato di coscienza di un intellettuale. Io sono un intellettuale di tradizione, lacerato dalle contraddizioni. Oggettivamente io esco dalla piccola borghesia cittadina del Mezzogiorno e porto con me le molte città e il sentimentalismo in bello di questo. di mente e fragilità di ristetta, queste che sono. Non mi resta che far partito da questo mio deporto, doloroso ingegno meridionale. C'è un pezzo vero, no? Perché mi sono legato alla classe operaia? Perché mi offro come uomo? Perché detesto le tradizioni piccolo borghese del mezzogiorno che mi hanno fatto quale sono? Incerto, oscillante, contraddittorio e praticamente vile. Questa è certamente la mia miseria. La mia grandezza è di aver finito coscienza spietata di questa miseria e di essere legato alla classe operaria che riformerà il mondo. Uno può la sperare. Poi l'ultimo villaggio della memoria, che cosa è stata per me la Lucania durante le mie ricette se non la terra del ricordo? La parte cercata che mi difendeva dalla minaccia di restare forte, senza né campanile, né filo d'erba, né volto umano, né paesaggio domestico, né voce amica, né nulla che avesse potenza di memoria e vita di prospettività. Alla base della vita culturale del nostro tempo sta l'esigenza di ricordare una patria e di mediare attraverso la competenza di queste esperienze il proprio rapporto col mondo. Coloro che non hanno radici, che sono cosmopoliti, o cosmopoliti non lo so, ci avviano alla morte della passione e dell'umano. Per non essere provinciali occorre possedere un villaggio vivente nella memoria a cui l'immagine può ricordare sempre di nuovo e che l'opera di scienza o di poesia riflassa in voce universale. Grazie per l'ascolto. Cesare Bermani. No, ma... grande esperienza. Ah, la spegnata. Spegni. Ecco. Ma io dirò poche cose sul rapporto tra... tra De Martino e il canto sociale. Negli anni successivi alla liberazione circolavano idee su ciò che doveva intendersi per cultura molto più avanzate rispetto a quella che poi gli organismi del movimento operaio, i partiti e sindacati avrebbero fatte proprie. Al primo congresso nazionale della cultura popolare tenutosi a Firenze al Palazzo di Parte Guelfa dal 15 al 18 ottobre 1947, Antonio Banfi si era spinto sino a dare una definizione della cultura che confidava nelle energie creative della classe operaia, considerava il mondo popolare proletario soggetto di cultura nel momento di lotta per la propria emancipazione, batteva la vecchia posizione di trasmissione dell'intellettuale tradizionale partitico alla classe, nella considerazione che il lavoro, la lotta politica e la funzione rivoluzionaria delle forze soggettive rappresentassero un momento fondamentale nella costruzione di una nuova cultura. C'è da dire che la politica di unità nazionale fatta proprio dal Partito Comunista e il Partito Socialista avevano poi reso di fatto marginali posizioni del genere, muovendosi piuttosto nella direzione di fornire materiali, nozioni per il proprio elevamento ai lavoratori, operai e contadini, trasformati in oggetti per la destinazione di un messaggio che non era che la filtrata, reinterpretata concezione della cultura corrente. Insomma, i partiti di sinistra cercavano di ridurre la cultura popolare di massa all'azione politica considerata come momento primario di vera educazione e finivano quindi per trasmettere ai militanti messaggi culturali in un'unica direzione, cioè dall'alto verso il basso. Ecco, Gianni Bosio ricordava tra l'altro come all'inizio del secolo, si è andati fino al 1908, io vado fino al 1905-1906, fossero state avanzate delle pesanti critiche a Béla Bartók perché studiava il canto contadino e Mirabella Parco ricordava che non mancavano quelli che vedevano nella tenacia perseveranza di cercare questi canti addirittura un segno di pericolosa pazzia. Devo dire che questo tipo di atteggiamento ha continuato a esserci all'interno dei partiti del movimento operaio, dove non solo molti funzionari di partito, ma anche, devo dire, accademici, guardavano noi ricercatori prima come degli stravaganti e poi addirittura come se fossimo dei pericolosi. Comunque, nell'ottica di quello che veniva chiamata la costruzione di un nuovo umanesimo, che allora era largamente accettata, riuscirono tuttavia a sopravvivere, anche se marginalmente, momenti di elaborazione culturale che riconoscevano nel destinatario medesimo della comunicazione culturale un soggetto di cultura e che hanno trovato allora interessanti sviluppi, per esempio, nell'esperienza educativa dell'Associazione Pionieri d'Italia, in quella rappresentata dal teatro di Max, e nelle ricerche sui canti sociali, anche a me folklore progressivo non l'abbiamo mai usato effettivamente nel nostro lavoro, la ricerca dei canti sociali, di cui furono secondo me i maggiori protagonisti due personaggi completamente diversi ma straordinari. Uno è Ernesto De Martino e l'altro è Gianni Rodari. Direi che entrambi hanno concepito la cultura come non divisa dalla vita, ma unita all'uomo e al suo lavoro. Ecco, questa è già una ragione per considerare l'operario di Ernesto De Martino o quello di Gianni Rodari, anche quello di Gianni Rodari nel loro complesso. Non separando ricerche sul mondo magico, sul lamento funebre e ricerche sul canto sociale per quel che riguarda De Martino, non separando le poesie o i libri per ragazzi e gli interessi per il canto sociale per quel che riguarda Rodari. Anche perché questo vorrebbe dire accettare proprio quella separatezza tra cultura e vita contro cui loro hanno reagito. Accettare la svalorizzazione effettuata di una cultura ancora liberale cruciale, benché spesso sedicente marxista, ma certo stalinista di allora, di qualunque ricerca che muovesse dal basso per tentare di rompere la separatezza della cultura della società e che utilizzasse spregiudicatamente metodologie provenienti da più di una delle tradizionali divisioni disciplinari, che soprattutto fosse mossa da una schietta passione politica e sociale, quella che faceva dire a De Martino: non me la posso strappare dal cuore e scrivere senza cuore, e non posso e non voglio perdere la coscienza che i miei doveri di scienziato sono appena un momento dei miei doveri di uomo. Questa consapevole sua negazione della neutralità della scienza, di cui in fondo è intriso quel pezzo che piace molto a Clemente e a me, di cui si è parlato, è stata sicuramente fondamentale per noi. Questa sua scelta di campo, cioè l'essere coinvolto nella medesima lotta di emancipazione di quelli che chiamava gli uomini semplici delle comuni, questo era quello che rendeva possibile il superamento della dicotomia tra ideologia e folklore, ma che pure creava la messa a punto di un nuovo orizzonte per delle ricerche di storia sociale. Intendiamoci, De Martino non si faceva nessuna illusione sulle difficoltà di quel tentare di essere assieme in una stessa storia, tanto che scriveva: è difficile e comporta tutta una serie di brucianti umiliazioni riprendere il colloquio tra due umanità che lo hanno da tempo interrotto. Sapeva benissimo che la sua formazione culturale, sulla quale esercitava una continua sorveglianza, avendo piena consapevolezza del fatto di essere lui stesso condizionato dalla propria formazione culturale, non poteva abbandonarla. Abbiamo anche sentito con quanta come parlasse di quelle che erano le sue defiance e la cultura da cui proveniva, insomma, i suoi limiti in quello che ha letto Ivan. Ecco, questo tipo di atteggiamento, che tipo di rapporto permetteva di instaurare tra ricercatori e narratori, nella ricerca soprattutto dell'equipe guidata da lui dopo dal 52 in poi? Secondo me l'ha detto molto bene Diego Carpitella. Questo lavoro era estremamente faticoso. Faticoso perché gli uomini non sono né le prime pietre degli archeologi né gli insetti dei naturalisti. Sono uomini e afferrare la situazione e non passare con l'emozione, razionalizzare e sapere quello che uno andava cercando era veramente una grande fatica per il senso di distacco che era necessario avere. Nello stesso tempo però c'era una partecipazione umana che non fosse freddo inventario etnografico e neanche chiarito questionario sociologico, e nello stesso tempo non avesse né paternalismo né animabilismo così diffusi negli studi folclorici. Da una parte bisognava partire colmo della letteratura sull'argomento, ma al momento esatto bisognava dimenticarsi di questo, afferrare la situazione umana, perché o si rischiava di diventare libreschi nel voler verificare la realtà viva, oppure si era soggiogati da ideologismi o da schemi di varia natura. Ma il punto critico della ricerca era esattamente questo: dimenticarsi, afferrare l'oggetto e nello stesso tempo razionalizzarlo, difendendosi dall'emozione e dalla passione umana. Ecco, devo dire che io condivido quanto ha scritto molti anni fa Marco Rivelli, cioè ha detto molti anni fa Marco Rivelli, a proposito, parlando proprio di De Martino e di Bosio. Lo storicismo, diceva, è anche l'idea che lo sviluppo storico deve essere comunque garantito da un soggetto dotato di potere. Per Croce è la classe dirigente, per Togliatti è il partito a monopolizzare il senso della storia. Per entrambi la gente, il popolo, le masse, la forza lavoro sono natura. Per Croce sono natura che non attingerà mai al livello della storia. Per Togliatti sono natura che può emanciparsi e attingere al livello della storia solo grazie alla mediazione del partito. Ernesto De Martino rovescia per primo questo punto di vista e i suoi studi tendono a riconoscere immediatamente alle culture popolari una loro autonomia, una loro capacità di passare al livello della storia anche al di fuori del filtro del partito. Per lui le culture popolari hanno già una loro dignità storica. Leggende, canti, narrazioni, valori, pratiche collettive individuali delle masse popolari escono già di per sé stesse dalla dimensione della natura inerte e arrivano a essere già di per sé storia. De Martino studia come le culture popolari affermano la loro propria esistenza nel mondo. Gianni Boso e Stino De Martino, era lei sempre che parla, sono state l'articolazione pratica e radicalmente profonda di questo approccio, la mediazione con questa scoperta teorica e la lotta di classe, e hanno rappresentato un approfondimento degli strumenti metodologici con cui si svolge la ricerca e si dà voce a questa capacità delle culture popolari di farsi storia. Ecco, io condivido questa interpretazione di Rivelli e vengo agli articoli di Rodari e De Martino sul canto sociale negli anni 49-53, i quali si collegano alla molteplicità delle manifestazioni associative aggregative di classe proprio di quegli anni, ossia alle giornate della cooperazione, agli incontri di primavera, all'associazione pionieri italiani, al teatro di massa e alla valorizzazione appunto del canto sociale. Parlo di Rubari perché io trovo che è molto importante i suoi stornelli di Gelsomina e Vandea, che scrisse su Unità, perché Rubari è un personaggio interno al mondo popolare, cioè lui conosceva la musica, se ne andava in giro con un complessino suonando l'armonica a bocca, suonava il violino, e su del finire degli anni 30 aveva addirittura formato con dei coetanei un trio, chitarra, violino e armonica a bocca, e suonava nei cortili, nell'osteria, faceva serenate. Grazie a questa attività si era familiarizzato con contadini, operai e muratori carrettieri della zona di Gavirato, Varese, dove abitava, e aveva preso da loro moltissimi racconti, proverbi, filastrocche e canzoni popolari e sociali. Il nesso tra Rodari, che canta canzoni popolari milanesi, parodie di opere o canti sociali, e Rodari, poeta per l'infanzia, per esempio, è strettissimo. Molte delle sue filastrocche devono il loro fascino e la loro capacità di diffusione al tempo, al comune non padroneggiamento che lì aveva delle forme proprie a quelle filastrocche popolari in mezzo alle quali aveva passato infanzia e adolescenza, e che nel mondo popolare proletario convivevano senza soluzione di continuità con i canti. Rodari era un grosso conoscitore del canto sociale. Parlavamo prima con Gallini di Bandiera Rossa, Rodari sapeva che veniva da Benchininetta, su tra l'Umbrelì, Bandiera Rossa. E quindi per questo gli articoli di Rodari dedicati ai canti sociali riescono a comunicarci il valore di quei canti, il valore che quei canti hanno per coloro che li cantano, e ci parlano di chi li canta. Devo dire che appunto nello svizzero panorama dell'epoca gli stornelli di Gelsomina e Vandea possono essere affiancati agli studi di ai due articoli che io trovo molto importanti, uno con pochissime righe ma molto pregnanti, e il folklore progressivo emiliano di De Martino. Il folklore progressivo emiliano del settembre 51 conteneva alcuni consigli metodologici ai ricercatori sul campo per più aspetti ancora insuperati, e poi anche una proposta scritta nel settembre 53 ci dava, è uno dei è forse il primo articolo che ci spiega con chiarezza come la poesia popolare non possa non essere anche il canto, e che il canto non può essere poesia popolare, insomma. E dice De Martino: come potremmo farci un'idea della poesia popolare quasi sempre cantata omettendo il canto? C'è di più: il canto è legato all'interpretazione personale del cantore, alla sua mimica, alla occasione e allo scenario concreto in cui viene cantato, sottratto a queste condizioni perde di vita e di valore. Ecco, io trovo, quanti secondi ho ancora? Ho già superato un po'. Vabbè, comunque cerco di concludere rapidamente. Volevo solamente ricordare come De Martino, come già diceva stamattina Carla Gallini, si pone sempre una finalità politica a qualunque ricerca si proponga. E lui stesso a ricordare nel dicembre del 54 nella sede dell'Istituto Gramsci in via Emilia a Roma, in un convegno sulla storiografia marxista presieduto da Togliatti, che non possiamo essere assenti, per esempio, dagli studi di storia delle religioni, non possiamo disinteressarci di appurare come si siano venute formando delle vere e proprie aree di depressione culturale nel Mezzogiorno d'Italia, nelle isole. Ciò significherà in sostanza studiare la storia della resistenza che le classi dominanti hanno opposte alla espansione e allo sviluppo del movimento operaio. Devo dire che quello che noi prendiamo da De Martino fu soprattutto, come nuovo canzone italiano, come credo anche come tante cronache, eravamo molto attenti a fissare col magnetofono la cinepresa, per esempio documenti sorpresi in flagrante nel corso delle feste popolari, del lavoro dei campi, delle officine, o di agitazioni e di sciopere di altri episodi appunto della lotta di classe, che è già un modo di precostituire e arricchire altre fonti per la storia di domani. Credo che siamo forse gli unici ad aver conservato fra tutti una massa non indifferente di cose registrate, per esempio nel 68 a Parigi e o anche in Italia. Vabbè, leggerete, se si faranno degli atti, questa relazione. Vorrei concludere ricordando che stiamo parlando in questi giorni di De Martino e Rodari in un'Italia profondamente diversa da quella in cui loro hanno operato. E questa giornata si verifica mentre è in corso una crisi del sistema capitalistico i cui sbocchi potranno essere più diversi e ancora non molto prevedibili. La sinistra di fronte a questa crisi si è trovata del tutto impreparata, nuda, in un paese che ha anche pulsioni forti di fascistizzazione e razzismo. Se ci sarà chi contrasterà questa deriva, saranno certo soggetti ben diversi dall'epoca in cui vissero Di Martino e Rodari. Chi saranno? I precari, gli immigrati, gli studenti, il ceto medio impoverito, una classe operaia che non è più quella che è stata sino alla fine degli anni 70, o chi altro? Molti sono gli interrogativi che ci impediscono di avere quelle certezze politiche che De Martino stendeva a macchina in forma di credo il 25 maggio del 61, se mi permette lo leggo. Credo nella fine del colonialismo, della società borghese, della guerra fra società umane. Credo nell'unificazione dell'umanità che vive sul nostro pianeta in una varietà di repubbliche socialiste plasmate secondo il principio dell'origine del destino umano e di tutti i beni culturali, senza residuo alcuno per il metastorico. Credo nella riplasmazione culturale degli impulsi aggressivi, nella lotta per il dominio della natura e per la conquista degli spazi cosmici. Credo che con la rivoluzione di ottobre sia messa in movimento la nuova era, così come la precedente si applica alla predicazione di Cristo. Credo nel disgelo e nel cielo pulito, e per quel che concerne l'intellettuale che vive oggi in stati borghesi, credo che il suo compito sia di non farsi libero dei blocchi di ghiaccio che ancora frenano la corrente e delle nuvole basse che il vento non ha ancora spazzato via dal cielo. Credo nel simbolismo socialista. Questo è il credo di maggio che vuol dire spalle alla morte nel momento stesso che l'accetta come condizione della storia umana. Credo che noi proprio possiamo invidiare De Martino per questa sua cosa. E per noi purtroppo, quale che sia il nostro ottimismo della volontà, in questo momento direi che nel domani non c'è certezza. In questi giorni si è scritto che cortei, bandieri e simboli del secolo scorso ci scaldano il cuore ma non bastano più. Ecco, credo che sia vero, però credo anche che sia vero che non per questo l'esigenza di simbolismi è venuta meno. Anzi, i mondi degli immigrati a cui c'era dato sono colmi di simbolismi. Non so se voi andate qualche volta nelle chiese dove si riuniscono gli immigrati in molti dei loro culti, direi che è un'orgia di simbolismo. Conoscere d'altra parte gli abitanti di questo nostro paese, nelle loro diversificazioni, nelle loro molteplici culture, rimane sempre un compito basilare. Per questo forse allora anche una riflessione sulle metodologie di ricerca utilizzate allora da De Martino e negli anni successivi può avere qualche utilità. Grazie, troppo buono. Ho condensato 25 pagine. Grazie, Gianluca. La canzone della Napoli di Chicago, materiale che Ernesto De Martino registrò nel 1950, e se c'è qualche domanda mi scuserà. Sarebbe bello. La Napoli è tutta illuminata, andiamo facendo sempre tra le tre. Promettono le strade di latine, lo fanno le piazzette e la stazione. Andate a mesce a stare su casa, carico di essere tutto con mano. E se non c'è comunque stato, la manzata è la mano. Ci chiamano lo zoro per prima e noi rimaniamo assieme alla linea. In carattere che non c'è tutto, signore, non c'è né più grande né saldone. Noi si manca la bellezza. Non si mette fuggia e manca l'inizio. Voi che fate l'intelligente non capite proprio niente, se non fosse per i capuni lo mangiassero di più. Poi continua De Martino, io credo che la canzone della rata sia un documento assai eloquente della volontà e storia della gente della rata. Quando scendevano le luci sconnesse del quartiere, uomini e donne uscivano dalle lontane monde e mi pregavano di dire, di raccomandare, di rendere pubblica la storia dei loro pavimenti, della loro fermentante ribellione. Altre volte, quando mi accadeva di partecipare alla loro vita di giovane, alla fraterna giovanità dei bambini e contadini, alla vivace gentilità della potente poesia che spesso ti fiorisce in verso improvvisato, qualcuno mi diceva con un corpo, vedendomi in matrice di agraggio, dite, raccontate, che noi da voi che non siamo fuori delle bestie e che qua giù non c'è solo miseria. Essi vogliono entrare nella storia, non soltanto nel senso di impadronirsi dello Stato, di diventare i protagonisti della civiltà, ma anche nel senso che fin da oggi, fin dal presente stato di indigenza, le loro storie personali cessano di consumarsi privatamente per grandi sfaccette del popolo, del quartiere da Badal, riaccovate senza orizzonte di memoria nel fango come lo stecco delle sue solite giornate. Essi vogliono che queste giornate senza luce, vissute in tale mondo, che stanno di mezzo tra la tomba, la grotta e la salva, siano notificate al mondo, a questi in carattere pubblico, mediante il giornale, la radio, il libro, e formino così tradizioni e storie. Essi vogliono anche che giunga al mondo la eco dei loro sforzi per emanciparsi e dal mondo delle loro stanche, dei fulmini, dei loro corpi, lavorati dal dubito, dalle tenebre e dalla fame, coperti di fango e di secco, essi gettino sul viso di coloro che inutilmente ritengono in catene il verso di sfida, noi si immanamo la bellezza, noi siamo la giovinezza del mondo. Dopo un incontro con gli uomini della Rapala, ho riflettuto che non c'era soltanto un problema loro, il problema della loro emancipazione, ma c'era anche il problema mio, il problema dell'intellettuale piccolo borghese del mezzogiorno, con una certa tradizione culturale, una certa civiltà assorbita nella scuola, e che si incontrava con questi uomini ed era costretto perciò stesso all'esame di coscienza, a diventare, per così dire, etnologo di se stesso. Innanzi alla rovina della Rapala di Caricenze, innanzi a tanta storia sconosciuta che si consuma in muto racconto, mentre su di voi si leva lo sguardo dolente dei bambini da guardare, io provavo un sentimento complesso, al quale cercherò di dare un nome razionale. Certamente questo mio sentimento non è l'antica pietà cristiana, anche se il mio, nel figlio della storia, la pietà cristiana non può essere passata in mano. Il sentimento che realmente provo è anzitutto un angoscioso senso di colpa. Innanzi a questi uomini mantenuti a livello delle bestie, malgrado la loro aspirazione a diventare uomini, io, personalmente io, il perpetuato piccolo borghese del mezzogiorno, mi sento in colpa. Altri forse la miseria a fondo di questa situazione, una testimonianza del peccato originale. Si dipenderà così dal peso di un'analisi incomoda, trasfigurando in cielo la responsabilità interamente umana di questa condizione umana. Ma io trovo qui solo la testimonianza della mia colpa, non della colpa. Io non sono libero perché costoro non sono liberi. Io non sono emancipato perché costoro sono in catene. Un altro grande passo di etica ed etica, che ha uno straordinario scenario anche pittorico del la parola a lui è sentita. Un intervento tutto accaparrato, soprattutto tenendo conto degli interventi precedenti, molto, molto limitato come argomento. Limitato anche dal fatto che non ho potuto trovare, che da poco che sono d'accordo perché sto cercando, i documenti che si riferiscono al tema che sotto turno. Cosa succede al procuratore progressivo dopo l'articolo del novembre 51 sul calendario del popolo? E quello di Bertino dà le istruzioni su come raccoglierlo e prima che venisse risposta per qualche anno nei cassetti della memoria. Credo che una risposta verrà cercata nel teatro di massa e nei suoi sviluppi rintracciati nel secondo congresso nazionale della cultura popolare che si tiene a Bologna nel gennaio del 53. Nel dicembre del 51 si tiene a Forlì il primo e ultimo congresso del teatro di massa. Non ne ho rintracciato gli atti nel relativo articolo di Muzzi apparso subito dopo su Emilia, perché il Gramsci di Roma è a ristrutturazione soltanto il 22 di ottobre, riapre oggi le proprie porte. Dispongo solo della cronaca che ne fa Luciano Leonesi, autore e protagonista del romanzo del teatro di massa, Cappelli, 1989, da cui è stato tratto l'anno scorso un documentario. Leonesi era stato l'aiuto regista di Marcello Sartarelli, il fondatore del teatro di massa, e regista anch'esso di importanti spettacoli del teatro di massa. Leonesi è scontento dell'esito del congresso, ce lo racconta così. Il dibattito fu serio e approfondito, ricco e articolato, e Sartarelli venne ridimensionato. Quattro contadini nella piazza di Tricarico, davanti a tutta la popolazione della contrada e di massa, nella stessa maniera in cui lo è stato il grandissimo spettacolo dei 4.000 allestito a Modena. Ponendosi questi problemi, il teatro di massa è entrato ormai nella sua adolescenza e l'aver evitato in questa assemblea costituente l'assurda ambizione della generalizzazione teorica ci sembra che testimoni della fondatezza e della serietà dei suoi intenti. Con un linguaggio da strati alti, il colto portavoce delle alte sfere imprime una vigorosa frenata agli entusiasmi dei neofiti teatranti popolari. Chiuse nel modo seguente, i delegati di 30 province italiane hanno cioè compreso che il teatro oggi chiede agli uomini di cultura di agire concretamente invece di continuare a disquisire astrattamente sulla crisi del teatro. Commenta Leonesi. Bravo, ma il teatro di massa non era forse una risposta seria alle disquisizioni astratte degli uomini di cultura? Si dessero la mossa agli uomini di cultura, venissero a rafforzare le nostre certezze. Poi arrivò Paietta a dare il colpo di grazia. Di massa era tutto ciò che rientrava nel grande reticolo del culturalmente valido. Romanzo del teatro di massa, pagina tal dettaglio, eccetera. Non ho la prova del documento, ma mi pare certo che dal congresso di Forlì nasca il centro del teatro e dello spettacolo popolare, che avrà per presidente Ernesto De Martino e per segretario Marcello Sartarelli, e che sarà tra gli enti che promuoveranno la spedizione etnologica in Lucania nell'autunno 1952. Nell'articolo Il mondo popolare nel teatro di massa, apparso sul numero di maggio di Emilia, De Martino spara palle incatenate sull'uso che della materia folcloristica è stato fatto finora nel teatro di massa. Tali rapporti sono stati finora scarsi, occasionali, dilettantistici, e di ciò risentono i copioni esistenti. ma nei quali talora si avverte che il linguaggio dell'intellettuale è stato prestato al popolano attore e che la psicologia popolare e lo stile del sentire nella sua concretezza regionale o locale non sono stati rispettati, o che il patrimonio dei canti e balletti è scarso o non organicamente inserito nella vicenda, eccetera. In altri termini, l'innesto del copione nella vita culturale delle masse popolari non trova ancora tutte le sue condizioni culturali ed è esattamente il teatro di massa come movimento che deve provvedere a facilitare il formarsi di tale condizione. Più esattamente dovrà prevedervi il lavoro di raccolta folcloristica, sia dei prodotti tradizionalmente ancora vari, sia dei prodotti del cosiddetto folklore progressivo. È inoltre necessario esaminare se le forme ancora in vita delle rappresentazioni popolari, per esempio i magi, possono essere riadattate al teatro di massa. È augurabile che si istituiscano rapporti con studiosi di folklore e di musica popolare e che, al fine di portare alla luce determinati prodotti folcloristici e determinati attori popolari, cantastorie, storiatori, eccetera, si indicano regionalmente o localmente ampie rassegne folcloristiche. Nel supplemento del numero 42 di Vie Nuove del 26 ottobre 52, intitolato Teatro e spettacolo popolare, alle pagine 28-29 appare un articolo di De Martino intitolato Richiamo alla tradizione. Sulla prima pagina campeggia la foto del coro delle Mondine di Pavia che ha partecipato agli spettacoli del teatro di massa. Dopo una ricca serie di esempi di come potrebbero venire utilizzati certi elementi folcloristici per il rinnovamento del teatro, De Martino afferma: se vogliamo che il teatro di massa esca dall'Emilia, dove innegabilmente ha cominciato a collegarsi con le tradizioni locali, occorre che metta radici nel folklore delle singole regioni italiane, altrimenti dovremo rinunciare a priori a stimolare esperienze del genere in Lucania, in Sicilia o in Sardegna. Nei materiali dei lavori delle commissioni del secondo congresso nazionale della cultura popolare Bologna, il 9-11 gennaio 1953, che possiamo osservare la convergenza tra folklore e teatro popolare. Tra i molti materiali ho scelto, cercando di non allungare troppo il brodo, alcune parti conclusive. Per quello che riguardava la commissione diretta da De Martino, che si intitolava Gli studi sulle tradizioni e le culture popolari, il documento della mozione dice: i delegati del secondo congresso nazionale della cultura popolare che hanno partecipato ai lavori della commissione di studi sulle tradizioni della cultura popolare, dopo aver discusso alcuni problemi di metodo e di organizzazione relativi alla cultura popolare nei suoi molteplici aspetti, canti popolari, spettacolo popolare, maschere, teatro delle marionette, danze, folklore, musicali, arti minori, eccetera, dopo aver preso atto con soddisfazione della presenza in scena alla commissione gli autentici portatori della cultura popolare, accanto agli studiosi del folklore, hanno deciso all'unanimità di orientare la loro azione futura sulle basi dei seguenti punti programmatici. Primo, ristabilimento di una più ampia circolazione tra cultura ufficiale e cultura popolare, attraverso nuovi metodi di organizzazione materiale, biologici, di organizzazione culturale, ai fini di contribuire validamente alla formazione di una cultura popolare nazionale in cui le masse acquistino coscienza di essere depositarie di nuovi valori umanistici. Due, accettazione delle forme di letteratura popolare in dialetto nella misura in cui queste forme, soprattutto per il contenuto nuovo, rappresentino un passo avanti verso la formazione di una letteratura nazionale popolare di lingua italiana. 3. Promuovimento di una raccolta su larga scala del materiale relativo alle varie forme di cultura popolare e stimolazione delle energie creative delle masse popolari in materia culturale. 4. Istituzione di una sezione per la cultura e le tradizioni popolari presso il centro del teatro e dello spettacolo popolare, sezione che si proponga il fine di attuare una rete capillare di collegamento con le varie attività individuali o collettive portatrici di cultura popolare al fine di guidarle e di stimolare nel loro sviluppo. La sezione inoltre dovrà provvedere anche a ravvisare i mezzi idonei per la difesa da un punto di vista commerciale delle varie arti minori popolari meritevoli di essere conosciute e apprezzate sul piano culturale. Ora, queste sono le conclusioni della commissione, diciamo, folklore. C'è poi invece un'altra commissione che si chiama Teatro e Spettacolo Popolare, alle quali partecipano Pandolfi, Sciacca, Ciattarelli, segretario del Centro del Teatro e dello Spettacolo Popolare, e numerosi dirigenti del Centro del Teatro provinciali e rappresentanti dei comuni. All'interno di delle relazioni di questa commissione ci sono alcuni passi che sono abbastanza interessanti da rileggere. In secondo luogo, per esempio, nell'intervento di Sciacca, in secondo luogo ritrovare e valorizzare le più genuine espressioni del folklore, intendere il valore dell'esperienza del teatro di massa che ha stimolato tra i lavoratori il sorgere di altre attività e soprattutto stabilire legami organici e permanenti tra il grande pubblico e il teatro. Oppure abbiamo Crescini del teatro di massa di Scherise Mantova, come spiega come l'iniziativa di far recitare le ragazze braccianti del suo paese abbia ottenuto ottimi risultati nonostante gli illegali ostacoli frapposti dalla polizia. Dalle prime esperienze si è sviluppato poi il lavoro di ben 4 filodrammatiche. Poi abbiamo un intervento di Silprandi nella filodrammatica delle Reggiane, che espone i grandi risultati ottenuti nella sua provincia, elencando le filodrammatiche che sono in atto, una serie di risultati collegati ancora al teatro di massa. Risultati analoghi sono esposti a nome del Centro del Teatro di Modena da Maduzzi. Il terzo spettacolo del teatro di massa realizzato allo stadio con 2500 attori è stato possibile solo grazie a decine di delegazioni che hanno strappato il permesso alla polizia. Soltanto nel 50 Sciattarelli aveva realizzato uno spettacolo con 5000 persone in scena davanti a 20000 spettatori. E poi ancora un altro intervento di un altro delegato, Surghi, che parla della una serie di attività che ancora riguardano il teatro di massa, parla della decadenza del teatro in vernacolo e invece delle coraggiose iniziative sperimentali fino al teatro di massa di Livorno, ai Bruscelli della campagna senese, al grande tema anche in Toscana della ricerca di un colloquio con il pubblico popolare. Forse uno degli interventi più interessanti è quello di Sattarelli, che espone i risultati ottenuti in un anno di lavoro, quindi è per questo che penso che questo centro del teatro dello spettacolo popolare nasca proprio l'anno precedente col congresso sui teatri di massa. Espone questo risultato di un anno di lavoro, ponendo in modo unitario il problema del teatro in Italia, ha saputo risvegliare in ogni parte del paese interessi vivi e profondi. Benché ostacolato dalla politica delle sovvenzioni e della censura, è in atto una ripresa di tutto il teatro italiano. Le iniziative concrete del centro si sono inserite in questo movimento. La rassegna dello spettacolo popolare è stato un grande successo, mobilitando centinaia di complessi in ogni genere e in quasi tutte le regioni, anche nel dimenticato Mezzogiorno, dove la spedizione folcloristica diretta dal professor De Martino ha indicato una strada importante. Si sta studiando di realizzare la sentita aspirazione di una rivista del teatro popolare che infatti poi nascerà, sarà teatro d'oggi, dove possiamo leggere per esempio articoli di Martino del 53 sopra il teatro popolare lucano, quella che potrebbero essere le forme del teatro popolare lucano. E poi ancora tutta un'altra serie di interventi, per esempio di Milano, il Centro del Teatro di Milano, che illustra la grande spinta culturale sorta dagli operai che hanno partecipato alle prime modeste esperienze del teatro di massa e che ora intervengono più attivamente in tutti i settori della vita culturale e teatrale, ed altre ancora. L'ultima cosa relativa a questo convegno, secondo convegno nazionale della cultura popolare, è l'elenco dei centri popolari del teatro e dello spettacolo che aderiscono. Perché questo elenco ci dà una situazione cristallizzata, fotografata di quello che era in quel momento l'azione del teatro di massa da una parte, di questi centri del teatro e della cultura popolare. Allora, i centri popolari di teatro e dello spettacolo di Livorno, Reggio Emilia, Chioggia, Correggio, Ferrara, Pesaro chiusi, Roma, Genova, Modena, Borgo Franco da Mantova, Piccola Ribalta Vercellese, Coro delle Mondine dei Cappuccini di Vercelli, Banda Musicale dei Cappuccini di Vercelli, Società Corale Maestri Cantori di Bigerno, Corale Flora di Padova, Teatro di Massa di Serni, questo l'abbiamo già visto, Teatro Popolare di Giovani di Milano, Teatro Cooperative Cremonese di Cremona, Teatro di Ravenna, Filodrammatica Cooperativa Baldini di Ravenna, Teatro di Massa di Medolla, Modena, Teatro di Massa di Carpi, Modena, Teatro di Massa di Saliera, Modena, Teatro di Massa di Modena, Filodrammatica di Novi, Teatro Popolare di San Damaso, con questo bandistico, sappiamo un po' i complessi bandistici, Teatro di Massima di Altedo, Bologna, Corale di San Pietro in Casale, con questo bandistico di Imola, poi ancora Filodrammatica, Teatro di Burattini e un piccolo colpo di scena, Teatro di Massa di Sesto Fiorentino. Sesto Fiorentino, cioè Sesto Fiorentino nel 53 ha il suo bravo Teatro di Massa. Quindi è interessante il, appunto, mi collegavo, mi era venuto spontaneo a collegarmi a un tema, appunto, che questo elemento che ci incuriosiva, che fine fa il folklore progressivo, di cui dopo il 51 sentiamo ben poco parlare. Emigra, in qualche maniera emigra e si struttura e si organizza all'interno di questa vicenda sulla quale si potrebbe parlare moltissimo nel Teatro di Massa, ma non abbiamo, diciamo che non ho preparato questo argomento, anche se potrei parlarne un po', ma non penso che sia necessario. E soprattutto De Martino è organizzativamente alla testa di questo centro del teatro e dello spettacolo popolare, al quale dà le direttive per creare questo incontro tra teatro di massa, comunque spettacolo popolare, e folklore progressivo. Prima di chiudere, siccome c'erano delle cose da leggere, era l'occasione per leggere dei testi di Martino, ne ho scelto uno che nulla ha a che fare col teatro, con il folklore progressivo, ma penso che abbia a che fare con altre cose che ci interessano. Immagina per un momento, ma riuscirai ad immaginarla sul serio, una società in cui gli uomini abbiano realizzato una reale fratellanza, in cui non vi siano più oppressi e oppressori, ricchi e poveri, creature abiette e creature privilegiate. Immagina una società in cui gli uomini si sentono interamente protetti dalla società stessa, dalle sue leggi, e quindi assistiti dalla nascita alla morte in tutte le congiunture della vita, nella malattia e nel dolore. Immagina una società in cui la natura sia dominata da una scelta progredita e, quel che più conta, interamente al servizio degli uomini e non della distruzione della guerra. Immagina una società fatta così, allora non avrei difficoltà a riconoscere che in quella società proprio ci sarà la situazione psicologica di isolamento e di abbandono da cui nasce la religione, non avrà più consistenza, o almeno avrà proporzioni minime, tali comunque da non giustificare la vita religiosa nella forma in cui si svolge oggi nella nostra società. Personalmente io credo nella possibilità di realizzare questa società, ed è per questo che militano nelle file di un partito che ha anche una fede. E questo non è di Mogol. E neanche di John Lennon, a cui somiglia un volo. Grazie, e adesso diamo la parola a Pietro Angelini. Adesso spengo il mio. Ecco. Allora, il primo amore, il folklore progressivo è stato per la mia generazione, in generale per la generazione di maggior parte dei presenti, il primo amore. Il primo amore stupido e ingeneroso, dispersare. Noi siamo, diciamo, siamo entrati anche mattino attraverso il cultore progressivo, non attraverso il mondo magico o attraverso super magia, che pure erano libri che venivano molto venduti ed erano molto letti, ma non venivano pienamente capiti. Sul cultore progressivo aveva il vantaggio di essere estremamente sensibile e passò. E stamattina è stato detto giustamente che si parlava, che si trattava di una colonna sonora. Sì, c'è due aspetti, la colonna sonora da un lato, in questo folklore progressivo, c'era però anche questo film di muto, in bianco e nero, che è venuto fuori dalle lettere che ha letto Clara Gallini, che è questo folklore appunto non progressivo, però da leggere in chiave progressiva. E quindi, diciamo, è più grosso di quello che può apparire a prima vista. Il problema del folklore progressivo in realtà diventò più che un problema, diciamo, classificatorio, definitorio di un settore del folklore, diventò poi un problema metodologico. Abbiamo parlato di colonna sonora, ecco, vorrei far presente che in fondo è stato De Martino stesso per primo ad affossare il folklore progressivo, proprio perché impossibile da studiare. Perché? Perché è difficile, diciamo, studiare ciò che ci appassiona, ciò che ci prende al punto tale sul piano etico-politico da poter scendere a un livello, appunto quel difficile livello di cui parlava Bernardi poco fa, di distacco e partecipazione al tempo stesso di fronte a un oggetto di studio. Vi ricordo questo è un luogo del Martignano piuttosto comune, però non da tutti conosciuto. C'era un precetto metodologico a cui De Martino teneva molto, mutuato da Petazzoni e riassumibile in una specie di immagine cioè del cartello che si metteva nelle birrerie bavaresi accanto all'orchestrina che suonava per il pubblico. Questo cartello recava scritto in tedesco Mitsingen ist verboten, e cioè è vietato accompagnare con il canto, con il coro, come volete, la musica. Insomma, non bisogna diciamo farsi travolgere a tal punto dalla musica da non far sentire più la musica dei musicanti. E questo è un precetto che De Martino ha fatto suo, grosso modo, negli anni 50, proprio quando viene meno il progetto del folklore progressivo. E certo, in quegli anni è chiaro che De Martino non riesce a fare del folklore progressivo un vero e proprio oggetto di studio. Ha un progetto di raccolta di materiale. Il concetto è povero, nel senso che viene definito in contrapposizione al folklore tradizionale, che è il modo sempre un po' peggiore per iniziare a concettualizzare qualcosa. E quindi, diciamo che anche De Martino non è stato aiutato dall'ambiente culturale. Fanelli ricordava che il discorso de martiniano, il folklore progressivo, in realtà non è stato discusso non è stato discusso. Quando si parla di dibattito sul folklore progressivo, in realtà si parla del dibattito sulla cultura popolare di quegli anni, e in seguito al famoso articolo di De Martino su Società, ma proprio sullo specifico del folklore progressivo in realtà c'è stato un silenzio quasi totale, tranne il famoso articolo di Giarriso, che disse che quello era il folklore dei comunisti. Ma al di là poi di questa battuta di Giarriso, che fu, ecco, questa alquanto discussa, siamo nel 1954, 53-54, al di là di questo intervento, in realtà, come al solito, De Martino non si trovò discusso. Più che mai in questa occasione, direi che questo gli ha fatto particolarmente male, perché De Martino aveva bisogno sempre del contraltare, diciamo, dell'obiettore, per fare un passo in più dal punto di vista teorico. E quindi la sua è rimasta solo una proposta che poi è stata abbandonata e in realtà poi mai del tutto autocriticata. E l'autocritica un po' avviene in un articolo del 1954, abbastanza famoso, si intitola Storia e folklore. È un articolo in cui De Martino dice di aver commesso degli errori e sono tutti attinenti al folklore progressivo. Il primo è quello di aver studiato il materiale folclorico con delle preoccupazioni di tipo propagandistico, diciamo. Secondo, che aveva dato troppa enfasi alla rivalutazione del dialetto, che è proprio all'inizio degli anni 50, anche attraverso il teatro, si stava reimponendo. E l'altro, l'ultima autocritica, piccola autocritica che fa De Martino a se stesso, è quello di aver creduto troppo nel mito del popolo creatore, un mito chiaramente di matrice sovietica, che sovietica da un lato, romantica dall'altra, si intende, però il riferimento è soprattutto all'etnologia sovietica. Questa autocritica è in realtà tutta in negativo, come vedete. L'unica autocritica in positivo che ha fatto De Martino a proposito del folklore progressivo è quella esposta in un articolo successivo, Considerazioni sul lamento funebre lucano, alla fine di questo articolo, che è successivo di 2 o 3 mesi, direi, quello precedente. Di Martino puntualizza qual è il suo punto di vista, e cioè che non si può parlare di folklore progressivo per quel che riguarda il sud, per quel che riguarda il movimento contadino. Perché? Perché attraverso lo studio dei canti, dei lamenti funebri, si è ben reso conto che non ne viene fuori una nuova concezione del mondo, una nuova visione della vita, della vita, della morte, del mondo. No, questo gli viene fuori da altro materiale, e il materiale relativo al folklore operaio, semmai, cioè quello che viene dal movimento operaio e non quello contadino, per cui c'è uno stacco, direi, netto. E da quel momento mi sembra di vedere, questo lo potrà dire meglio Perbani, mi sembra che da quel momento De Martino si orienti deleghi altri allo studio del folklore progressivo e soprattutto quello operario del nord. E lui non fece in tempo, né sappiamo se effettivamente aveva voglia di occuparsene. Ultime considerazioni, poi chiudo. questo iato metodologico che troviamo per riguardo proprio gli anni 49, 52, 53 di De Martino, lo ritroviamo però anche negli anni successivi, e cioè questa incertezza metodologica, questo squilibrio metodologico che troviamo nello studio del folklore progressivo, che appunto non si converte poi in effettivo oggetto di studio, lo ritroviamo in altri due grandi settori che De Martino affrontò negli ultimi anni di vita. Il primo è quello dello studio dei millenarismi. Anche nei millenarismi De Martino non arriva a un livello analitico, diciamo, di questi miti, di queste credenze, di questi rituali. Si limita in gran parte a registrarli e ad avere un movimento, diciamo, di adesione, e però non vengono interpretati questi culti millenaristici, un po' come poi non erano in realtà interpretati né da Ed Worsley né da Lanternari né da Jan, da questi autori. Per cui De Martino insomma non prende forse sufficientemente le distanze, rimane appunto anche in questo caso una passione politica che non si può convertire appunto in oggetto di studio. Lo stesso avviene con il simbolismo civile, lo stesso è un altro grande oggetto di studio dell'ultimo De Martino. Ecco, e i simboli civili in realtà sono lo studio dei simboli civili si vede chiaramente che è una prosecuzione dei grandi temi del folklore progressivo, ma anche qui De Martino che in realtà non riesce ad andare, non fece il tempo forse ad andare al di là della registrazione dell'entusiasmo per questo, per i simboli civili, che poi quelli che a lui interessavano in particolare erano i simboli socialisti, il brano che ci ha letto Bellman, lo dice chiaramente: credo nel simbolismo socialista, e credo, quindi la difficoltà di studiarlo è tutto lì, ci crede. E Bellman diceva: ecco, noi abbiamo di fronte i simbolismi degli immigrati, di tutti, abbiamo di fronte una gamma di simbolismi da studiare, ecco, a differenza di De Martino, ecco, non abbiamo però questa forte, questo grosso problema di avere un atto di fede nei loro confronti, e questo vale anche per quello che dicevamo dei millenarismi, e evidentemente vale anche per quelli, i movimenti di liberazione, di emancipazione del sud degli anni 50. Grazie, io. Mentre si prepara Anna Maria Rivera, diamo un'ultima voce a Ernesto De Martino. Io vorrei sottolineare che abbiamo avuto un pacchetto di interventi, diciamo, storiografici, anticipati da quello di Clara Gavini di questa mattina, che sono veramente interessanti e ricchi da discutere. È una ripresa del dibattito degli anni 70 molto, molto sollecitante. Quindi nella discussione teniamo un po' insieme queste relazioni, d'altra parte Bernani nel suo, come dire, colpo di coda finale ha anche anticipato invece un'altra prospettiva, quella diciamo così di discutere sul presente, no? Queste sono interrelate, probabilmente gli ultimi interventi sono più legati alla coda di Bermani che non agli interventi fatti fino adesso, poi nella discussione sceglierete voi insomma in che direzione andare. Prego, Don Maria. Ho dimenticato l'intermezzo della sotto la spinta del movimento operaio e della sua coscienza teorica più alta, che è il marxismo-leninismo, si è venuto determinato nella vita culturale delle classi subalterne e strumentali della società borghese un vero e proprio sblocco delle forme tradizionali di vita culturale popolare. Si è cioè venuto costituendo un folklore progressivo, che è proposta consapevole del popolo contro la propria condizione socialmente subalterna o che commenta, esprime in termini culturali, le lotte per emanciparsene. Nel paese dove la classe operaia è vittoriosa, nella Russia, nei paesi di democrazia popolare, il folklore progressivo ha assunto anche l'aspetto di riflesso culturale politico dell'edificazione socialista nel dominio teorico della natura, eccetera. Così, accanto al folklore progressivo pre-rivoluzionario, folklore delle botte contadine, del diritto della servitù della gleba, satire contro i padroni e i pope, folklore dei lavori forzati dell'esilio, eccetera, ha grande sviluppo nell'URSS anche il folklore relativo agli eventi che accompagnarono e seguirono le giornate di ottobre, dalla lamentazione di una voce d'attrice popolare in notte di Vienna alla riflatorazione artistico popolare dei grandi eventi che accompagnarono la modificazione socialista, per esempio l'elettrificazione delle campagne, lo stacanovismo, la liberazione della donna, eccetera. In Italia la resistenza ha dato un nuovo impulso al folklore progressivo, che è un folklore dell'occupazione delle terre, degli scioperi, dell'occupazione delle fabbriche e in genere legato immediatamente alle vicende della lotta di classe. Per modificare la tradizione bisogna conoscerla. Il folklore non è soltanto tradizione, memoria presente del passato, ma contiene anche motivi progressivi, vivaci riflessi delle aspirazioni attuali del mondo popolare e accenni e indicazioni verso il futuro. Sotto la spinta del moto di emancipazione della classe operaia e dei suoi naturali alleati, i ceti contadini, il folklore è entrato in un profondo fermento di trasformazione. Già da tempo la festa del primo maggio è entrata nel ciclo delle grandi feste popolari e recentemente, dopo la liberazione, anche le feste dell'unità hanno dato luogo a nuove tradizioni folcloristiche progressive. Gli esperimenti del teatro di massa e il concorso di Mortara per il migliore canto popolare delle mondine rientrano nello stesso processo di trasformazione del folklore tradizionale. Vi è in Italia tutto un patrimonio cospicuo, ovvero solenne commento canoro che accompagna nella sua storia il movimento operaio contadino. Si tratta di tanti che esprimono ora semplice protesta e ora aperta ribellione alla condizione subalterna che il popolo è condannato. Ovvero di stornelli satirici contro il nemico di classe, di epiche memorie di lotte antiche e recenti, di lirici abbandoni all'appassionata anticipazione del mondo migliore di domani. Questo patrimonio folcloristico progressivo è stato sempre, per ovvie ragioni, trascurato dalla scienza folcloristica tradizionale, la quale proprio in questa sua omissione rivela il suo più palese carattere di classista. Spetta a noi raccogliere questo patrimonio, conservarlo, rimetterlo in circolazione e soprattutto stimolarne l'incremento. E questo è un aspetto non trascurabile del nuovo umanesimo in cammino. Pietro Clemente stamattina provava a chiedersi, a immaginare cosa saremmo noi, chi saremmo noi, cosa sarebbe l'antropologia se Ernesto De Martino fosse ancora in vita, fosse ancora fra noi. Ecco, io rispetto a De Martino provo sempre a immaginare, a ragionare come se. Di fronte a certi fenomeni, a certi eventi che meriterebbero di essere antropologizzati, di essere indagati dagli strumenti dell'antropologia, spesso mi sorprendo quasi inconsapevolmente a chiedermi come li avrebbe letti Don Martino. E vorrei dare appunto qualche spunto, qualche elemento di riflessione rispetto al modo in cui De Martino potrebbe essere riattualizzato oggi. È parte da due frammenti, uno De Martiniano notissimo e l'altro no, quello De Martiniano. Solo più tardi, come militante della classe operaia nel Mezzogiorno d'Italia, mi resi conto che il naturalismo dell'etnologia tradizionale si legava al carattere stesso della società borghese, che tra le condizioni di esistenza, per esempio, dei braccianti delle mugge e l'inerzia storiografica delle scritture etnologiche e folcloristiche vi era una connessione organica. Secondo frammento. Ciò che mi ha strappata a questo percorso accademico è stata la violenza della realtà, i cadaveri neri che hanno affollato all'improvviso lo schermo, e la sensazione precisa che qualcosa in effetti stesse cambiando. Dopo i primi provvedimenti contro i Rom, dopo l'omicidio del ragazzo di Milano e degli africani in Castel Volturno, la prima cosa che mi è venuta spontanea è stata rivolgermi ai missili, agli antropologi, e mi sono scontrata con un muro di silenzio. Non ho difficoltà a immaginare che tra 2 o 3 anni magari su questi temi si organizzerà un pomposo convegno. Il primo è appunto un passo famoso in De Martino, tratto da Intorno a una storia del mondo popolare su Valterio del 49. Il secondo è il frammento di una lettera appassionata, molto bella, forse un po' ingenerosa e anche un po' ingenua, che mi ha inviato una giovane antropologa che non conoscevo, che mi aveva incontrata per caso a una manifestazione antirazzista, e me l'ha mandata per spiegarmi perché ha deciso di abbandonare l'antropologia accademica. La lettera meriterebbe di essere letta tutta, tanto è bella quanto ingenua e generosa, come ho detto prima. È un accostamento provocatorio. Io ho fatto questo accostamento provocatorio per dire che al di là del folklore progressivo o dell'etnocentrismo critico, concetti che credo che sembrino a tutti noi datati e molto problematici, io continuo a pensare che una delle lezioni più attuali di De Martino risieda, certo, si è detto stamattina, nella straordinaria riflessione sul sacro, ma anche nel modo in cui egli ha articolato la ricerca, l'analisi e la riflessione teorica con l'impegno civile, per dirla pudicamente, di rete e la scoperta dell'acqua calda. Ma io intendo dire che l'impegno civile di De Martino non è semplicemente, come dire, il corollario doveroso per uno studente, per uno studioso schierato politicamente in maniera così netta e decisa. È invece una delle condizioni della sua etnografia, non dico in senso stretto etnografia. Etnografia, si è detto da parte di molti critici, si è fatto un cenno anche stamattina, certo imperfetta, ma insomma, un'etnografia che per non rimanere inerte, come avrebbe detto De Martino, inerte storiograficamente, deve farsi attraversare dalle umane dimenticate storie di coloro che erano considerati, l'abbiamo sentito poco fa, Zulu e Beduini, come si dice appunto nel canto della Ramata. Per non farmi bacchettare a Fabio Dei, che è qui presente tra noi, voglio dire, non è soltanto l'affermazione banale che l'epistemologia è radicata nelle pratiche sociali, e neppure si tratta di esaltare ingenuamente, e certo sì, pericolosamente, qualche rapporto deterministico tra sfera di impegno pubblico da una parte e campi del sapere dall'altra. È giusto che i campi del sapere conservino una certa autonomia, una certa specificità. Ed è bene sottolineare, come fa Pietro Angelini nel suo ultimo libro, che a De Martino interessa non solo, e negli ultimi anni forse non tanto, cambiare il mondo, ma anche, o piuttosto, a proposito di qualcosa di progressivo, di riflessione sulla cultura popolare, eccetera, eccetera, ma anche, dicevo, o piuttosto cambiare le sue rappresentazioni dotte, nel caso specifico cambiare il sapere dei folkloristi e degli etnologi, tranne questa riflessione da Pietro, da Pietro Angelini. Quello che voglio dire è che a me sembra che De Martino sia stato pioniere di un metodo, del quale oggi si parla molto e spesso resta pura retorica, di un metodo fondato su una postura, io preferisco chiamarla così, una postura di tipo empatico. Voglio dire che ci ha lasciato una lezione non solo metodologica, ma anche epistemologica, a mio parere del tutto anticipatrice, riassumibile in questa frase, per non farla troppo lunga: il soggetto epistemico è anche un soggetto affettivo. È inutile dire, lo dico rapidamente al volo d'uccello, che tutta l'opera di Martiniana è attraversata da temi, suggestioni, sfumature che anticipano, secondo me, quell'etnografia dialogica e riflessiva che oggi sembra essere l'unico modo possibile di fare antropologia. L'esplicitazione e la valorizzazione della dialettica soggetto-oggetto della ricerca, la persuasione della non eliminabilità della soggettività del ricercatore e delle sue passioni, la proposta, come sappiamo bene, di una epopea metodologica delle categorie che sono familiari al ricercatore per diventare, l'abbiamo sentito ora, in un passo, per diventare, per così dire, dice De Martino, l'etnologo di se stesso. Voglio dire che in definitiva, e pur con i limiti di un eurocentrismo, di questo mi sarebbe piaciuto parlare oggi, ma non era il tema di questo convegno, di un eurocentrismo che secondo me De Martino mai riuscirà davvero a trascendere, in lui sono presenti le premesse di temi e posture che soltanto negli anni più recenti, più vicini a noi, saranno sviluppati dalla ricerca sociale. L'intensità con cui vive, come dice De Martino, la pungente esperienza dello scandalo sollevato dall'incontro con umanità cifrate, la consapevolezza che senza il pathos del rimorso e della colpa davanti al fratello separato non vi è possibilità di incontro appunto con il Zulu e i Beduini. Ecco, tutto questo si riflette profondamente nella sua ricerca di campo, per quanto imperfetta, certo imperfetta, nei resoconti etnografici, nella scrittura, come sottolineato Clara Gallini, conferendo proprio alla sua scrittura quel peculiare stile autobiografico che in quegli anni era atipico, se non del tutto eccentrico, che l'antropologia dei giorni, degli anni più vicini a noi, poi legittimerà, infine legittimerà. Sappiamo bene che la riflessione de Martiniana, ma anche in buona misura la sua etnografia, sono figlie di una temperie del tutto particolare. Erano anni di lotte per le contadine molto importanti, della grande speranza del riscatto del Mezzogiorno, per usare i termini dell'epoca, dell'impetuoso movimento bracciantile di occupazione delle terre, lo dico per il più giovane, che sarà represso con eccidi e arresti di massa. Ma forse converrebbe sottolineare anche un altro elemento che spesso noi stessi dimentichiamo, il fatto che un'impronta contadina recavano anche i grandi eventi che si svolgevano in quegli anni sulla scena internazionale: l'offensiva di Vietcong contro i colonialisti francesi, il processo di emancipazione dei popoli colonizzati, la proclamazione della Repubblica Popolare Cinese, recavano questa impronta fortemente contadina. Dunque sappiamo bene che a questa speciale temperie erano legati certi motivi demartiniani. Intanto il concetto di folklore progressivo, come dice Pietro Angelini, a ben vedere assai poco gramsciano, io sono d'accordo, no? Il tema dell'irruzione nella storia del mondo popolare subalterno, inteso appunto come l'insieme dei popoli coloniali, semicoloniali e del proletariato operaio contadino delle nazioni egemoniche, come scriveva De Martino, ed è dunque in questa specifica temperie, specifica a livello nazionale come internazionale, che va inscritta per esempio la condizione demartiniana della persistenza dei sincretismi pagano-cristiani, che in sostanza Demartino intendeva come determinate da ragioni congiunturali, la miseria economica e culturale, l'oppressione sociale, eccetera, avrebbe potuto avere soluzioni di continuità grazie appunto all'irruzione nella storia delle plebi. Oggi non si profila alcuna irruzione, ma non per questo non è possibile un'antropologia critica e riflessiva, un'antropologia intesa alla maniera di De Martino, ma forse anche alla maniera di un Michael Erskine, per esempio. Un'antropologia, voglio dire, intesa come critica sistematica e studio comparativo del senso comune, per citare Erskine come un tassello di quel discorso di resistenza critica nei confronti dell'egemonia concettuale, cosmologica, di questo senso comune globale. Ecco, un tratto peculiare del pensiero di De Martino è, a mio avviso, la costante oscillazione fra la nostalgia, c'è molta nostalgia anche nelle pagine di Martiniane, la nostalgia del senso e della pregnanza culturale delle forme che egli chiamava arcaiche, da una parte, e la convinzione appunto che, essendo in ultima istanza espressione di miseria sociale e culturale, fossero destinate ad essere superate. Ed è questo secondo polo dell'oscillazione che a mio parere oggi appare più debole. Invece, secondo me, la rapata di tre pariche descritta nelle modalità potrebbe essere assunta a metafora, sottolineo metafora potente e paradigmatica delle rapate disseminate nel mondo globalizzato. Per esempio, a metafora di certe bidonville dell'Italia del Sud, dove si ammassano, dove sono costretti ad alloggiare i braccianti immigrati stagionali, in gran parte clandestini, come dicono loro signori. Ed è così che allora i contadini in tricarico possono riapparirci nelle sembianze dei braccianti stagionali di Cassibile o di Castelvolturno. Faccio un esempio di possibile comparazione. Al tempo di De Martino, i contadini rapatani più avanzati, dice De Martino, avevano adibito al luogo di culto della Chiesa Battista l'unica stanza oscura e fumosa della dimora miserabile di uno di loro. Mi è capitato di leggere l'anno scorso, a proposito di un evento che è stato anticipatore della serie di pogrom che si sono poi susseguiti negli esiti recenti a Cassibile, mi è capitato di leggere che i braccianti stagionali marocchini di Cassibile, vittime appunto di pogrom con incendio della loro baraccopoli, la prima cosa che hanno fatto dopo la fuga a seguito degli incendi è stata quella di ricostruire un simulacro di moschea, un rettangolo di grosse pietre con fogli di cartone per pavimento, dotando questo simulacro di un mihrab rudimentale, ma in maniera assolutamente corretta, orientato verso la Qibla, cioè la direzione della Mecca. Che voglio dire? Che pur costretti in regimi di esistenza al limite dell'umano, gli uni e gli altri, i contadini rabatani, i contadini rabatani, i braccianti marocchini di Cassibile, coltivano, uscito da Martino, costumi e ideologie che formano civiltà e storia. Per i primi, l'adesione alla comunità battista era una forma di protesta verso la Chiesa cattolica, alleata con i ricchi e con gli oppressori, dice sempre De Martino. Era l'aspirazione a coltivare una religiosità evangelica e al tempo stesso socialista. Per i secondi, per i marocchini di Cassibile, la rudimentale moschea è un mezzo per salvaguardare ed affermare la propria umanità, per sventare il rischio della crisi della presenza, sottraendo una parte di sé, perlomeno una parte di sé, al regime della merce e alla cultura razzista del paese di arrivo, che vorrebbe per l'appunto deumanizzarli. Voglio dire che se si va oltre la lettera delle opere di Martignano, per cogliere il nucleo di verità metodologica, filosofica, metaforica che è contenuto nell'opera di Martignano, si può dire che potrebbe ancora suggerirci qualche spunto per la lettura del presente. Il proletariato agricolo non è scomparso, come si dice banalmente, è stato invece sostituito da braccianti provenienti da qualche altrove più o meno lontano, ugualmente stigmatizzati come superstiziosi, arretrati, inferiori, come Zulu e Beduini. L'utilizzo massiccio nelle campagne del Sud Italia, come del resto in Andalusia o in California, di una manodopera stagionale costituita da migranti, pur inserendosi in un contesto strutturale radicalmente mutato, avviene in condizioni di lavoro, di vita, di sfruttamento, di salari comparabili, se non peggiori, rispetto a quelle dei braccianti autoctoni fino agli anni 60, ugualmente sottoposti al caporalato, come sapete, obbligati a lavorare, come si diceva un tempo, da sole a sole, spesso pagati a continuo, costretti a dormire in alloggi di fortuna, ridotti a una condizione servile o addirittura semischiavile, poiché il capitale globalizzato non ha eliminato, anzi inglobato, i rapporti di lavoro più arcaici. Perché faccio questo esempio? Perché penso che dei ricercatori che volessero porsi sulla scia dell'etnografia di Martignano per cercare di riattualizzarla, potrebbero indagare, per esempio, se alle vecchie forme magico-religiose sincretiche legate al lavoro agricolo non vadano sostituendosi altre forme ritualizzate di resistenza e di protesta, questa volta attinte alla memoria di tradizioni culturali lontane e adattate alla condizione presente. Sarebbe un modo questo per chiedersi se quella condizione sociale che molto sommariamente descritto non possa essere, non debba essere colta anche dal versante delle pratiche simboliche, e se queste pratiche non ci dicono qualcosa di interessante, di importante circa il modo in cui quella condizione è vissuta. Non so quanto tempo abbia ancora. Ecco, consumato il tempo. E allora mi avvio alla conclusione, mi rendo conto che così quello che ho detto risulta tagliato con l'accetta, ma non importa, insomma, se si faranno gli atti di questo convegno potremo leggere gli interi interventi. Concludo dicendo che la crisi della razionalità e dell'etos occidentale che De Martino aveva intravista e fittamente, finemente commentato nelle note raccolte nella fine del mondo, senza, a mio parere, senza essere comunque mai capace di rinunciare al presupposto del primato culturale, della civiltà occidentale, ecco, questa crisi si è andata consumando in forme che oggi si manifestano devastanti. L'emancipazione delle plebi, lo dico tra virgolette, scuse, anche questo lo dico tra virgolette, dallo sviluppo e dal progresso, non può più essere immaginata come un ingresso in una dialettica storica pur sempre definita dai dominanti. In tal senso, seguace dell'ortodossia gramsciana, De Martino aveva attribuito gli livelli culturali principalmente, non voglio dire soltanto, principalmente mi sembra, alla mancata rivoluzione borghese nel sud Italia e dunque a un limite di egemonia culturale. Ma oggi i tanti sud del pianeta, che siano altrove oppure che siano nel cuore, ai margini delle nostre metropoli, non hanno da attendersi alcuna rivoluzione borghese, quella proletaria non ha più vaghi né profeti, fortunatamente forse, perché vorremmo fare a meno di vaghi e profeti. La rinuncia all'egemonia o l'impossibilità oggi di esercitare egemonia produce sempre più dominio e sul piano culturale questo si manifesta spesso come ansia di reductio ad unum, come tentativo di incorporare o sradicare tutto ciò che contraddice il particolare che si proclama universale. Anche in questo senso, forse, De Martino può tornare ad essere attuale. Per esempio, io credo che non sia del tutto azzardato sostenere che qualche analogia può essere colta fra il tentativo secolare da parte dei poteri dominanti di sradicare o addomesticare l'arcaico, penso alle numerose e svariate forme simboliche di attardamento, lo dico tra virgolette, di resistenza o di protesta, tra questo e il gesto autoritario che ricorre ad una legge per strappare il velo della retratezza e della superstizione da certi capi femminili. Oggi concludo dicendo, forse proprio quelli che alcuni ritengono attardamenti di De Martino potrebbero essere messi a frutto come se fossero anticipazioni. Voglio dire, quei motivi che la sua riflessione e ricerca, dei suoi critici hanno giudicato i più inattuali, in quanto frutto della sua scarsa attenzione verso le lotte operaie, le trasformazioni strutturali, il ruolo d'avanguardia della classe operaia industriale, ecco, proprio queste al tempo presente possono assumere un certo alone d'attualità. Per tante ragioni, non siamo più, mi accenno soltanto qualcuna per tagliare rapidamente, intanto non siamo più nella fase storica che vedeva nel movimento operaio imperniato idealmente intorno alla classe operaia industriale il modello di elementi di rappresentanza dei bisogni e delle istanze delle classi subalterne. Oggi una parte consistente della classe operaia del nord vota Lega Nord, altro che folklore progressivo, e oggi appartiene alla cultura popolare la leggenda degli zingari rapitori di bambini, un motivo arcaico che si fa postmoderno e serve appunto a giustificare e a legittimare il pogrom. E io credo che oggi neppure certi paradigmi nazisti, ancora meno i modelli operaisti, i modelli tributari, divisioni evoluzioniste e progressiste della storia riescono a dar conto dell'intricato sviluppo di civiltà e barbarie, arcaico e ultramoderno, arretrato e avanzato, per, naturalmente per usare antinomie molto convenzionali, che connota l'era della globalizzazione neoliberista. Forse anche per queste ragioni De Martino, o una parte della sua lezione, è non attuale, ma può tornare ad essere riattualizzata nel concreto delle pratiche etnografiche. Grazie. E grazie a noi, siamo in tempi abbastanza, diciamo, alle 6 dovremmo aver finito questa rotonda e invitarvi a una qualche discussione. Penso, spero che 6:30, 6:40 possiamo terminare. Adesso mi tocca come interventore, non come presidente. Devo dire che ho preso molti appunti su questo tema del folklore progressivo, non sono ancora arrivato a una sintesi, quindi provo a navigare tra le cose che ho pensato. Mi sono reso conto, riflettendoci, che il folklore progressivo è uno simolo, perché il folklore veniva da Gramsci, che lo considerava come un aspetto fondamentalmente di residualità della cultura popolare, e perché appunto veniva in contraddizione quindi con l'idea di progressivo. Questo concetto fu espresso in modo proprio analogo dal Alberto Cirese con l'espressione il volgo protagonista, che usava la nozione di volgo che era quella usata dai positivisti, dall'Ombroso, quindi una specie di contraddizione in termini. Come dicevo stamattina, folklore è un termine che non si usa più negli studi, diciamo è indicato più spesso per indicare culture musicali, ma anche il turbo folk, no? Di una certa voga est europea. E progressivo è, secondo me, una parola squalificata, cioè proprio una cosa che io trovo a questo punto pesante come eredità del movimento operaio, no? ancora abbastanza presente nel lessico, ma pesante. Tuttavia uno simbolo ha forse una potenzialità molto forte quando i due termini di cui si compone sono significativi, sono presenti. E quindi la mia domanda è anche, esiste uno simbolo contemporaneo che possa sostituire quello di folklore progressivo? Io non l'ho trovato, ma per dirne uno così, diciamo una traccia di ricerca, una cultura di massa sostenibile, sarebbe una specie di analogia, usare la nozione di sostenibile sulla cultura di massa sarebbe forse uno simoro, però progressivo è più forte che non sostenibile, e quindi insomma si può trovare, ma perché trovarlo? Perché effettivamente la mia sottolineatura del carattere obsoleto di questi due temi non vuole essere una sottolineatura del carattere obsoleto della produzione del mattino, ma in fondo anche la mia è una istanza di recupero del pensiero di De Martino, al di là di quella che fu l'attrazione su di me negli anni 70 di una epica, no? Una epica e di una epica per la forza intellettuale di massa, che a me francamente pare molto riprovevole già per il me degli anni 70 figurarsi per il me di ora. E quindi, diciamo, per me riflettere sulla possibile attualità dell'ossimoro demartiniano è al tempo stesso come impedirsi la cecità sul cambiamento, attratti dalle figure di un'epica tramontata, come guardare l'abisso che ci separa dagli anni 70 in termini di ceti sociali, mentalità, pratiche, mondializzazioni. La stessa Africa che io ho studiato per la mia tesi di laurea fatta su Franz Fanon oggi è completamente diversa. Alcuni dei protagonisti delle pagine dei Demarchi della Terra, considerati da Fanon dei liberatori, si sono rivelati degli stragisti e degli ammazzatori, conflitti endemici si sono innestati. pensare il mondo con una continuità è pensare che, diciamo, c'è una tendenza di quegli anni che ancora noi possiamo in qualche modo esprimere, e a mio avviso è una tentazione che bisogna evitare. Non flere, non lugere, senza intelligere, diceva De Martino. Senza intelligere, diciamo, condanniamo la politica ai sentimenti. E allora cosa possiamo fare? A me pare che dobbiamo anche partire dal fatto che c'è una perdita di nesso tra linguaggi politici e linguaggi conoscitivi. Cioè, il folklore era un termine usato criticamente, ma del bagaglio degli studi, e progressivo era invece un termine della politica. E questo rende molto difficile, no? Però in fondo l'istanza è di trovare un nuovo simbolo di questo tipo, cioè che rimetta in gioco questi aspetti. Ma il popolare cos'è? La mia idea era di partire da una riflessione, in fondo Ivan stesso me l'aveva suggerito, che mi è stata determinata dal fatto che mi sono messo a litigare con la regione toscana a proposito dell'ottava rima, e che mi sono incontrato con degli aspetti della politica che io non mi aspettavo, in sostanza, appunto, che una regione abbia almeno per un attimo l'idea di voler affidare i beni culturali immateriali del proprio territorio ad un'associazione gestita da un professionista privato dello spettacolo che si chiama Davide Rondino e appoggiata dal vicepresidente della fondazione del Ponte dei Pazzi di Siena, per me, diciamo, è un'aberrazione allucinante. Come antropologo questo dovrebbe essere un sintomo di come cambiare la politica, diciamo, quali linguaggi diversi, e quindi anche lo scenario di una cultura che mira ad esprimere le culture locali è assolutamente contrario al lessico prevalente della politica contemporanea, se non nelle forme che in essa sono compatibili, e cioè il lobbying, che è praticamente una delle pratiche più diffuse, o peggio il clientelismo. Ma diciamo che nello scenario politico contemporaneo uno che alla mia età è costretto a considerare che tutto ciò che negli anni 60 e 70 veniva attribuito alla patologia del potere democristiano è in realtà un tratto comune sia della destra che della sinistra. E quindi è un po' da riscrivere, diciamo, il linguaggio attraverso il quale parlare delle cose. E quindi il popolare anche, come si colloca, se noi volessimo leggerlo nella chiave non del progressivo, Dio ce ne guardi, ma almeno del sostenibile, no? È popolare il desiderio di ridurre il traffico urbano nei centri storici? Beh, direi di no, è molto più popolare quello di aumentare il traffico urbano nei centri storici. È popolare, questo credo di sì, il fatto che quando tu vai su una strada ti segnalano quegli abbaglianti che c'è la polizia che ti può controllare più avanti? Questo credo che sia popolare, è una forma di solidarietà, ma è una forma di solidarietà che sostanzialmente avviene per evitare multe, ma sostanzialmente per considerare il traffico come una terra di nessuno, un anarchismo, no? In crescita. Vabbè, ma anche perché la polizia è antipatica. Nessuno propone, non so, auto elettriche come cosa popolare. I temi, diciamo, di una cultura popolare contemporanea quali sono? Beh, qualcuno però ne emerge, possiamo cercare di trovarlo. Ad esempio, a me ha colpito molto questa ricerca che è stata avviata da Mariano Pavanello, Fabio Dei ed altri, il tema della donazione del sangue e la presenza nella scena dei lavoratori immigrati nella donazione del sangue, il tema del dono e della mancata reciprocità in questo tipo di pratiche, come in fondo anche l'abbagliante è un meccanismo, come dire, di solidarietà tra persone che non si conoscono. D'altra parte il linguaggio delle classi è completamente mutato. Ora Gramsci ci torna con i subaltern status dall'India e dagli Stati Uniti, ma in sostanza a me sembra che oggi, diciamo, nel mercato dei concetti che riguardano la società dentro la quale viviamo, la nozione di individuo, la nozione di persona, l'individualismo, il consumo, il consumismo, sono concetti che marcano i soggetti sociali molto di più che non le classi o i ceti. Le classi o i ceti sono aspetti residuali della compresenza nella società contemporanea quegli strati del capitalismo di cui parlavamo per ciò che riguarda gli anni 70. E quindi molto difficile rileggere tutto questo. Noi siamo più spinti ad essere consumatori, a identificarci in un'associazione di consumatori piuttosto che a essere intellettuali. Questa è una delle cose che a me, ad esempio, disorienta di più, il fatto che si sia perso proprio radicalmente il ruolo di intellettuali, e quindi che tutto il discorso che De Martino faceva, che era basato sul ruolo di intellettuali, sia abbastanza improbabile come possibilità di essere ripetuto. Infatti anche così la voce dell'intellettuale è oggi in qualche modo presente in alcuni generosi tentativi, ma non è più la voce che media tra strutture organizzative, che forma ideologie, come nel modello gramsciano in cui Benedetto Croce in qualche modo esercitava l'egemonia. Quindi lo stesso concetto di egemonia va un po' ripensato in una società così radicalmente plurale e schizoide, in cui la nozione di popolare sembra in qualche modo non avere spazio, e quindi sul lato del folklore non troviamo molti termini da sostituire. Ecco, andiamo facendo sempre frate e fratte, ecco, questa fratellanza, no, che io ritrovo sempre in un passo della lettera di una professoressa, no, sortirne insieme è la politica, sortirne da soli è l'avarizia. Questo sortirne insieme, ma insieme a chi sortiamo? Ecco, non abbiamo qualche difficoltà, ogni tanto ci sono movimenti che producono una certa insiemità, però il quadro è quello che segnala Paul Gilbert in questo libro La democrazia che non c'è, cioè i processi di socializzazione che producono la democrazia e che comunque erano radicalmente presenti nella scienza che Martino analizzava, al di là dei suoi esiti storici, no? Che erano invece, come è stato notato nelle relazioni di tipo storiografico, diciamo tendevano a vedere perdente quel tipo di pratiche, oggi sono difficilmente leggibili. E cosa c'è al posto? Ecco, è tutto questo che mi rende abbastanza difficile parlare di soggetti, di parlare di ceti. Il rischio che un'istanza etica, che poi è quella che nel 70 mi portava all'etica, perché tra l'etica e l'etica c'è una certa pervietà in certi momenti storici, che venga un pochino a inquinare l'istanza di ritrovare un nesso tra i linguaggi della politica intesa come azione sociale della conoscenza, perché la conoscenza è in qualche modo legata all'azione sociale, se no praticamente è accademia nel senso peggiore, cioè esercizio, no? Puro esercizio di una certa retorica. E questo avviene in un mondo in cui oggi alcuni soggetti che vediamo nella scena non sono il proletariato, ma sono gli animalisti, i cacciatori, i musei, il volontariato del settore dell'assistenza medica, le associazioni dei consumatori. Ecco, queste sono tutte cose che io sono in difficoltà a leggere come soggetti di una scena in cui si possa fare frate e fratte, oppure ci si possa in qualche modo incontrare come in una sorta di girotondo, quella della canzone di Moraes e di Endrigo, che io trovo sempre ispirato alla Ginestra di Leopardi. Questi modelli per me di imprinting, di un'immagine di un mondo solidale sostanzialmente, ecco, trovano un grande disagio ad essere praticati. Una cosa che notava Saverio Tutino alcuni anni fa, e che ci aiuta anche a fare dei decalaggi temporali abbastanza rigorosi, ricordava lui, che ha fondato l'archivio diaristico di Piero Santo Stefano, che ancora nei primi anni Ottanta una lettera di Silverio Corvisieri, penso ormai poco conosciuto deputato della Sinistra Unita o di qualcosa di questo genere, a Repubblica, in cui dichiarava la sua autobiografia, era stata considerata come individualismo piccolo borghese. Quindi, diciamo, immaginatevi negli anni 50, ecco, come eravamo lontani da un'idea di individuo, di persona, no? Come quella che poi si è sviluppata negli 80 e nei 90, e come il tema dell'ecologia, il tema della distruzione del mondo, fosse lontano dall'orizzonte. Nella nozione di progressivo c'è, abbiamo letto anche stamattina, un passo molto marxista di De Martino, in cui c'è questa idea del controllo illimitato dell'industria e dell'uomo, no? Dell'ingegno umano sulla natura, che appunto non dell'esito. E quindi tutti questi fattori come ci fanno a mettere in scena? Molti movimenti ecologisti sono assolutamente avanguardistici rispetto alle culture popolari e sono spesso detestati dalle culture popolari. Quindi diciamo che possiamo constatare una grande confusione sotto il cielo, ma diciamo non di quelle che Mao Zedong definiva molto positive, questa mi sembra un po' implosiva. E quindi diciamo come ritrovare questa connessione ossimorica di Ernesto De Martino? Intanto forse cercando, mi sembra che tutto sommato questo è uno dei temi forti, perché in fondo tra qualche anno qualcuno ci considererà responsabili se non avremmo cercato, no? Certo, io potrò dire che ero un po' anziano o cose di questo genere, ma questa è un'attenuante generica. Diciamo viviamo in un momento di crisi drammatica del mondo, e la crisi drammatica non è soltanto la crisi finanziaria, no? È la guerra come sistema endemico di convivenza, insomma, è ossimorica di per sé. E quindi che strada cercare per non essere troppo responsabili di fronte ai nostri figli, ai nostri nipoti, di non avere detto nulla in un mondo così drammatico, parlando di un orizzonte che tutto sommato sembrava promettente di rapporto tra la ricerca antropologica e la società civile e le masse. Non so proprio che dire su questo argomento, voglio solo concludere indicando un percorso che ho cercato di fare, in cui per me è sempre fondamentale il tentativo di mettere nel carniere la consapevolezza di essere in un altro mondo rispetto a quello del passato e di mettere nella mia personale consapevolezza la nozione che il comunismo è finito, proprio lì è una parola per me impronunciabile, ecco, io come dire rispetto nel quadro delle relazioni di amicizia, di affetti e così via, che invece la sente come produttiva di sentimenti generosi, gloriosi e solidari, per me il comunismo è quella parte delle cose che abbiamo sentito da De Martino che sono tragicamente etica socialista, sono etica stalinista, e questo diciamo lui ce l'ha colpa come tutti gli altri, non ci abbia colpa solo lui, però diciamo che come dire l'anima di quel progetto di Ernesto De Martino non era stalinista, però le parole, le forme lo erano e c'è un contagio, no, tra le due. Allora per assicurarmi un pochino un percorso come dire tranquillo in una navigazione che non abbia ricadute, da un lato propongo di rileggere la nozione di resistenza, perché questo è secondo me un grande discriminatore. Diciamo quando De Martino scrive c'è una fase che non si è conclusa di onda lunga in attacco delle classi popolari dopo il fascismo, e oggi invece siamo, come direbbe Maurizio Agamennone, sotto schiaffo, quindi pensiamo prima a resistere e poi ad attaccare. E per me la parola resistenza non me ne ero mai accorto, ma c'è un saggio, un piccolo saggio che poi è una lettera di François Lyotard, che si intitola Glossa sulla resistenza, che è una riflessione su 1984 di Orwell, in cui diciamo Lyotard non propone un orizzonte con il pugno chiuso, lui dice che i nodi della resistenza nel mondo dei media, nel mondo globalizzato, sono la scrittura, il corpo e l'amore. È una cosa opposta, sarebbe sembrata individualismo piccolo borghese sulla Repubblica degli anni Ottanta, oggi secondo me non ce lo possiamo permettere di considerarla. Ecco, e c'è qui tutto il nodo dell'individualismo, perché anche il nodo dell'individualismo è un nodo forte della cultura, diciamo il concetto di persona, di umanità piena di cui parla De Martino. E oggi è un pochino in crisi, nel senso che quello sviluppo dei paesi dell'Occidente che lo consentiva anche alle bestie dell'Arabia Saudita, quello c'è stato, però le bestie dell'Arabia Saudita sono scappate dall'Arabia Saudita e si godono un sistema dei consumi, quindi anche questo va tenuto nel conto. E l'individualismo, per me è un dubbio questo. È il miglior fiore dell'Occidente nella sua completezza, nella sua idea di persona relazionale, oppure l'inizio di una frontiera che proprio non ci possiamo permettere? La persona, l'individuo, non sarà come l'acqua che la consumiamo tutta noi? E quindi questo è un po' un tema, ma porre questo tema ne pone subito un altro. Ad esempio, per me, nell'esperienza contemporanea, una delle cose più scandalose, questo è un termine che io prendo in prestito da De Martino, certo non è stato lui il primo a usarlo, ma lo scandalo è per me molto De Martiniano nella sua genesi, diciamo, per me lo scandalo di Civitella, di cui ho scritto, è una parola che prendo in prestito da De Martino, e ieri alla televisione ho sentito che adesso per la strage di Civitella viene chiesto un risarcimento alla Germania. È lo scandalo di migliaia, forse oggi milioni, di persone non belligeranti e senza divisa che vengono uccise nel mondo in guerre che ormai sono totalmente pervasive. Allora lì l'individuo che fine fa? È l'oggetto di una riflessione al rovescio che fa Chilani nel suo libro recente, in cui dice: ma quante vite di altri mondi vale la vita di un individuo occidentale? Di fatto nell'informazione, diciamo, un individuo occidentale ne varrà quanto? 1500. Quando fa notizia la morte della gente dell'Asia, dell'Africa o cose di questo genere? E questo è uno dei nodi che fa pensare al De Martino anche delle apocalissi culturali, cioè che restituisce forse un'attualità di uno scenario anche, diciamo così, di tragedia e di leggenza, che tutto sommato non è coerente col folklore progressivo, che è un po' ottimista, no? Però che dialoga con questo bisogno di attualità che c'è nell'opera di De Martino. E l'ultimo spunto, ma questo proprio non ci sono riuscito e sono quasi fuori tempo, è un tentativo di rileggere De Martino alla luce di questo oscuro libretto su che cosa è contemporaneo, il contemporaneo di Giorgio Agamben, che tutto sommato nella sua oscurità dà alcune tracce di attenzione. Ecco, ma anche qui, tra l'essere inattuali con Nietzsche, tra l'essere capaci di indicare una frattura che sta in una collocazione strategica per comprendere un tempo, il vedere il buio di un'epoca oltre le luci e di cogliere l'indirizzo di una luce che viene ma non ci raggiungerà mai, l'idea di un transito, costante, l'idea di una riconnessione tra passato e futuro, come qualche volta se sembra di star leggendo qualcosa, diciamo, che ha a che fare con il cristianesimo, con il misticismo, che in qualche modo dà l'idea che il passato venga a maturazione con un futuro. E questi sono temi che probabilmente aiutano a mettere in scena un'idea di contemporaneità che non è tattica, no? Ma è fortemente strategica, è animata da una capacità di lettura e di trasferibilità che ci può essere tra la ricerca antropologica e la ricollocazione, no? Di idee di futuro, che questo è uno degli oggetti più assenti, e ogni tanto qualcuno si domanda se è giusto avere idee di futuro. Ad esempio, ci sono delle riflessioni di Marranau che sono molto convincenti su questo esercizio di futuro che è stato fatto nel Novecento, che ci ha portato praticamente a una crisi di immaginazione del futuro. Ecco, questi secondo me sono nodi che hanno a che fare con la nozione di progressivo e hanno a che fare con il tema della fine del mondo, e sono nozioni, a mio avviso, ancora molto forti nel pensiero di De Martino. Prima o poi riuscirò a metterle in ordine e magari in un convegno per i 110 di De Martino cercherò anche di dirvele in modo ordinato. Grazie. Ecco, scusate, rientro nei miei panni di presidente e vi chiedo subito se c'è qualcuno che vuole intervenire. Noi qualcuno l'abbiamo anche sollecitato a intervenire, per aprire un piccolo dibattito e per, ecco, aiutarci a fare il punto. Prego, Fabio Devi. Volentieri 5 minuti di commento alle stazioni che ho sentito solo per il pomeriggio, perché non c'ero questa mattina, e ecco, mi pare che ci sia una larga condivisione sul fatto che questo tema del folklore progressivo è una sorta di formazione concettuale di passaggio, che dura per qualche anno, che poi sarà fortemente autocriticato lo stesso De Martino, e che ha il senso di trovare un terreno comune tra impegno scientifico e antropologico in particolare e impegno politico. E anche quello di trovare forse un ruolo per gli studi antropologici nella cultura italiana del dopoguerra, in particolare nella cultura di sinistra che sotto l'ombrello gramsciano, cioè, si sta prendendo in quegli anni. Sono anche gli anni della collana viola in cui questo impegno si manifesta, come ci insegna Pietro Angelini. Sono gli anni in cui non ricordo ora esattamente, ma molti di voi lo sanno bene, della famosa citazione di Togliatti che ironizzava sugli studi serissimi sulla stregoneria e sulla pederastia attiva e passiva, no? Ecco, che era un segnale non molto buono per le scienze sociali, e De Martino era un interprete molto forte di questo tentativo e desiderio anche di compromesso, diciamo, di trovare spazi per la ricerca scientifica di tipo cronologico e storico religioso nella cultura della sinistra italiana di quegli anni. Il concetto di folklore progressivo non durerà molto, ma certo De Martino non rinuncia a cercare un legame profondo tra la comprensione scientifica e l'ideale di emancipazione, diciamo così, cioè per lui fino in fondo, forse in modo anche più forte nelle note sulla fine del mondo, l'idea che l'epistemologia, che la comprensione antropologica sia tutt'uno con l'impegno politico, no? Ecco, sono stati citati brani delle note lucane, di altri testi degli anni 50, molto forti in questo senso, ma mi pare che questo sia veramente un filo conduttore dell'intera opera di Ernesto De Martino, l'unico che davvero mette in connessione gli aspetti che possono sembrare così diversi degli studi storico-religiosi, della riflessione metodologica ed epistemologica, e quelli invece del suo impegno di militante politico. E mi pare che questo sia, se vogliamo porci il problema di oggi, il nucleo ancora oggi valido e per noi rinunciato della riflessione di De Martino. Personalmente ritengo anche che queste riflessioni, come le poneva De Martino negli anni 50 e 60, siano ancora un ottimo modo di pensare al problema del rapporto fra politica e epistemologia, molto più di quanto non sia certa pacottiglia post-colonia che ci arriva oggi, no? Con una completezza. Certo, da quegli anni sono passate molte cose, abbiamo letto Foucault, eccetera, non possiamo pensare il problema esattamente negli stessi termini, ma la chiarezza e la forza con cui De Martino pone questi problemi è ancora oggi molto forte. Certo, lo possiamo seguire in alcune delle cose che lui dice, cioè per lui, forse per la cultura italiana degli anni 50 in generale, impegno politico vuol dire anche orizzonte scatologico, no? Non è tanto e soltanto il riferimento all'Unione Sovietica e ai toni stalinisti che oggi ci colpiscono e che è difficile accettare, ma proprio questo orizzonte scatologico, che per De Martino è molto forte, in quel credo che abbiamo letto lo si sente, no? Con grande forza, e qui noi oggi ci sentiamo effettivamente in un'altra epoca, cioè separati da quel periodo, cioè il nostro scetticismo sulle prospettive, la nostra difficoltà di vedere un futuro, forse la nostra sempre maggiore e forse più realistica propensione a vedere un futuro di estinzione della specie umana, anche di emancipazione, no? Ecco, diciamo, ci separano da quell'epoca davvero come se fosse una preistoria. Mi pare che la riflessione sul folklore progressivo abbia a che fare anche con un problema invece più interno alla storia degli studi, che era quello di rapportarsi alla visione gramsciana, che qui è stata più volte citata, senza dubbio il concetto di folklore progressivo non è gramsciano, no? E tuttavia, diciamo, parte da Gramsci. Antonio Fanelli ricordava che il 51 è l'anno in cui il concetto viene introdotto, e viene introdotto, credo, ma non mi correggerete, ma proprio in un intervento che De Martino fa a un dibattito su Gramsci e il folklore a Roma, al Teatro delle Arti di Roma, un dibattito a cui partecipano anche Vittorio Santoli e Paolo Toschi, tra l'altro. Nel quale il grande problema mi sembra quello di questi studiosi, per Tosti e Santoli ancora più che per Demartino, di mantenere un'autonomia degli studi, della disciplina folclorica e forse antropologica più in generale, di fronte a un vero e proprio attacco che Gramsci nei quaderni, nelle osservazioni sul folklore in modo particolare, aveva fatto alla disciplina, pur apprezzandola, però aveva sostanzialmente sostenuto che tutta la tradizione italiana di studi folclorici era volta verso una visione pittoresca, statica del folklore, e soprattutto ne condannava l'impianto positivistico, la tendenza a pratiche meramente di raccolta e di classificazione dei reperti folclorici, il cui valore era valore pittoresco, ecco, diciamo questo. E tutti conoscete insomma la definizione dei frammenti indigesti, il folklore come precipitato di concezioni del mondo del passato, in cui il processo era di movimento dall'alto verso il basso, diciamo così, no? E questa idea che Gramsci propone del folklore come, nella prima stesura dei quaderni, dice, fare un museo di concezioni del mondo passate, e poi questo diventa l'agglomerato di frammenti indigesti. È una concezione molto negativa del folklore che nei quaderni complessivamente, al di là anche delle paginette delle osservazioni sul folklore in modo specifico, è trattato come una sorta di fardello ingombrante che caratterizza la coscienza delle classi subalterne e che deve essere superato, se non addirittura spazzato via dall'emancipazione e dalla costruzione di una soggettività umana più universale, che è quella che il nuovo umanesimo, cioè il marxismo, sostanzialmente propone. Allora, se noi seguiamo coerentemente questa, e De Martino se ne rende bene conto in questo scritto del 51 su Gramsci e il folklore, se noi seguiamo questa prospettiva, l'autonomia dell'oggetto dell'antropologia degli studi folclorici e quindi l'autonomia di queste discipline si scioglie, non c'è più. Sembra che non possa esserci più uno studio separato di questi oggetti, no? Ma semplicemente una storia che analizza i processi culturali nel loro complesso. Ecco, la mia impressione è che De Martino, in questo scritto del 51, trovi nel concetto di folklore progressivo, che si aggancia ad un passo specifico di Gramsci, avevo anche portato la citazione molto famosa, peraltro una volta tutti la sapevano a memoria, ecco, dice Gramsci che il folklore non è soltanto un deposito inerte di disorganiche sopravvivenze, è anche questo, e per tutti i quaderni lui dice che è questo. Però, ecco, in un passo lui dice anche che il folklore è in grado di esprimere una serie di innovazioni, spesso creative e progressiste, determinate spontaneamente da forme e condizioni di vita in processo di sviluppo e che sono in contraddizione o semplicemente diverse dalla morale degli strati dirigenti, no? Ecco, quindi il folklore, per il fatto stesso di esistere e di rappresentare, di essere connesso a una condizione subalterna, segnala i limiti della cultura egemonica. Non solo, Gramsci segnala qui anche la capacità creativa e dinamica del folklore, no? Quella di cambiare, di adattarsi ai tempi, ai contesti politici e alle esigenze emancipative. Ecco, De Martino si butta a pesce su questo passo dei quaderni. Non so dire dal punto di vista dell'esegesi gramsciana se e cosa fosse già stato scritto nel 51 a proposito di questo passo. De Martino ne coglie la grande potenzialità antropologica in modo originale e ecco, va in cerca anche nella sua esperienza etnografica e di conoscitore politico del Sud di una serie di episodi che possono essere ricondotti a questa idea di innovazioni, di folklore dinamico che si adatta ai contesti politici attuali, moderni, ecco, diciamo. Dunque un folklore che manifesterebbe una differenza irriducibile rispetto al progetto culturale egemonico. Ecco, più tardi, anche nei passi che Pietro Angelini citava prima, De Martino ritorna su questo, non è più molto convinto, sicuramente non è convinto in relazione al folklore del sud, però insomma il problema così come è stato posto è piuttosto importante, e quello che ci possiamo chiedere, ecco, De Martino in qualche modo poi si ritrae da questo terreno, sembra non considerarlo il proprio, e nelle grandi monografie di fine anni 50, primi anni 60 trova un terreno molto diverso, folklore o cultura popolare, poi non sono più parole che lo interessano moltissimo, e la sua prospettiva antropologica o storico-religiosa ha un carattere più generale, in cui non si pone più tanto questo problema di scarti differenziati tra la cultura egemonica e quella subalterna, o della capacità dei ceti popolari per l'appunto di introdurre rispetto alla cultura dominante e istituzionale una serie di variazioni che potrebbero andare a costituire un concetto innovativo e storicistico di folklore. Ecco, De Martino crea un'antropologia storicistica, non si preoccupa più di tanto di fare tutto questo per il concetto di folklore. In quali direzioni vanno gli studi di folklore invece dopo questo accenno? Ecco, è interessante il fatto che Toschi fosse presente a questo dibattito del 51, Toschi che forse era il più classico esponente di quel folklore di carattere positivistico, compilativo e classificatorio che Gramsci denuncia, ma in questo suo intervento Toschi dice sostanzialmente che Gramsci sia ragione, però insomma era in carcere, non aveva accesso alla bibliografia e non conosceva i grandi passi avanti che aveva fatto il folklore italiano. Questo è abbastanza dubbio, fra l'altro detto da un personaggio in cui, insomma, che è molto discusso oggi nella storia degli studi, molti sostengono che Toschi abbia cercato e lottato, diciamo, per mantenere uno spazio di autonomia degli studi folclorici di fronte all'invadenza dell'ideologia fascista, ma per altri versi Toschi era anche molto compromesso, era uno che scriveva in continuazione lettere al Duce, diciamo, molto compromesso con il regime, e il fatto che già nel 51, insomma, lui cerca una nuova legittimazione alla sua disciplina basandosi proprio sugli scritti di chi nelle carceri fasciste era morto, una cosa che colpisce abbastanza. Diciamo, la mia impressione è che gli studi folklorici italiani poi riescano a continuare pur facendo superficialmente i conti con la critica di Gramsci un po' sulla strada precedente, cioè su quella un approccio sostanzialmente positivistico che evita perlomeno, ecco, ovviamente mi riferisco alle principali tradizioni accademiche degli studi folclorici, insomma anche in quegli anni stavano fuori dall'accademia, probabilmente quelli che lavoravano in direzioni diverse. Ecco, lo scritto di De Martino nel 51, il concetto di folklore progressivo, segnala un'attenzione interna alla storia degli studi che poi mi pare non venga in qualche modo ripresa, che venga lasciata cadere. Da questo punto di vista, ritornare a riflettere su quel concetto, su quegli scritti, sulla discussione di quegli anni, mi pare un punto importante per capire qualcosa di più della storia degli studi di folklore, per capire anche il punto in qualche modo di stallo in cui questa storia si trova oggi. Qualche altro intervento? Clara, vuoi dire tu qualcosa a questo punto della sera? Che ho ricevuto dello Stato italiano in dono. No, un piccolo aggiunto, però mi scappo. Sì. Perché due nanetti, concludiamo con due nanetti. Uno che dovrebbe piacere molto Pietro Clemente, purtroppo non ho il testo da citare, ma De Martino aveva iniziato un'autobiografia, intanto Vita, intitolata Vita di Gennaro Esposito Napoletano, che fu pubblicata, pubblicata poi da Curumuni, e racconta come sarebbe nato, visto che celebriamo la nascita, nasce l'8 dicembre. C'è molto rumore perché c'è appena stato il terremoto di Messina e per le strade di Napoli, ecco il tema del dono e dell'offerta, passano i carri che raccolgono le offerte in abiti e in cibi buttati dalle finestre dalle famiglie su questi carri. E la madre, che era incinta, si affaccia, butta, si commuove, corre nell'altra stanza e Ernesto nasce 8 dicembre. La mia curiosità è stata quella di andare a controllare la data del terremoto di Messina, che è il 18 dicembre. Quindi ci troviamo di fronte a una nascita mitica, a una scena primaria costruita o da una madre o dal soggetto stesso, non sappiamo chi, ma molto caratterizzante della dimensione drammatica e apocalittica che ha attraversato il nostro personaggio. Vabbè, questo era un anetto, come diceva qualcuno. No, piuttosto, se dovessimo ripensare, ho ascoltato con grande interesse le cose che sono state dette stasera, mi sembra che uno spettro si aggiri, non detto dagli etnologi, demoetno, folk, eccetera, è molto detto dai politici, nazional-popolare. Nazional-popolare come locuzione che troviamo già in Gramsci, nei quaderni, che sembrò a Gramsci appunto l'esito auspicabile di quello che avrebbe dovuto o potuto essere una politica culturale di emancipazione, di crescita della coscienza nazionale, qualora il popolo fosse libero, eccetera, eccetera. Di questo concetto i folcloristi si sono fatti poco carico, mentre se ne sono fatti carico immediatamente i politici. Il Partito Comunista, io non ho vissuto direttamente quegli anni, forse Pietro, che non li ha vissuti, però è molto più erudito di me, riesce a inquadrare meglio quel periodo, però la politica togliattiana del cosiddetto nazionale popolare credo sia stata abbastanza precoce e altrettanto abbastanza precocemente contestata. Ecco, come questo giochi sulla storia della formazione culturale di De Martino, non lo so, sarebbe da vedere. Mi sembra che non abbia giocato in questi termini sulla formazione delle nostre discipline, lasciando peraltro che ancora spesso ancorate, come tu dici, a questo termine di popolare che dovrebbe essere superato, termine che peraltro io oggi, proprio ieri, ho incontrato nel manuale del militante nazional popolare. Cioè il neofascismo di destra oggi si è impadronito di questa terminologia. Terminologia che nel frattempo aveva avuto anche altre storie, perché a metà degli anni Ottanta, quando non più la politica del nazional popolare aveva avuto la bandiera del nazional popolare era stata la bandiera del Partito Comunista, a metà degli anni Ottanta, quando cominciò a divulgarsi sotto il craxismo un certo tipo di televisione, quella dei presentatori, la tipo Baudo e il tipo di come si chiama, di trasmissione, di emissioni che lui faceva, venne indicato da alcuni, stigmatizzato da altri, esaltato come nazional popolare. C'è una storia di questo termine che forse non ha attraversato le discipline demo, etno, antropologiche, ma che ha marcato e sta ancora marcando tra l'altro la nostra storia, la nostra storia culturale. Ecco, mi sembra che sia uno dei temi non detti, tema che di recente si connette a quell'altro delle piccole patrie, caro Pietro Clemente, che mi fa molto paura. Appunto, ogni volta che sento nazionale o popolare, oggi ho questo. E d'altra parte, perché non è uscito questa sera? In questo quadro nostro, non lo so. Quindi esco più con domande, con immagini apocalittiche che con risposte. Grazie Clara. Io credo di dover prego. No, volevo dire mentre questo fatto, tu parlavi dell'uso del nazional popolare, no? Io ho sentito utilizzare il termine nazional popolare da parte degli avvocati difensori di Riva al di Riva all'ultimo processo avvenuto a Taranto, per spiegare che siccome questi sostenevano che Riva era colpevole, ma non utilizzavano tutti i marchingegni straordinari della giustizia per assolvere Riva, allora erano nazional popolari, quindi non potevamo prenderli in considerazione. No, te lo dico perché è molto divertente, ho registrato tutto il processo, perché a Taranto, siccome si muore come delle mosche a causa della diossina, no? Tutti muoiono, mi sembrava giusto registrare questo processo per vedere se si poteva poi utilizzarlo in qualche modo. Io però trovo che ti rigiro una domanda credente. Gli operai di Taranto sono assolutamente bianchi. Cosa vale la loro vita? Forse non varrà quei 15.000 che tu hai detto, pensando ai massacri fatti da Bush in Iraq. Beh, cazzo, muoiono anche loro, sono tanti, e bisognerebbe ricordarsene, parlarne e magari anche scandalizzarci e magari anche prendere posizione. Chiudere perché anche io devo andare via. Forse un piccolo commento vuole farlo Ivan. Io, diciamo, come mie annotazioni vorrei dire questo, che sul piano del ripensamento della storia di quegli anni ci sono state, diciamo, alcuni approfondimenti che io non mi aspettavo. Ci sono documenti che meritano di essere approfonditi, e la dimensione anche del folklore progressivo non si riduce solo agli scritti di De Martino, tutta una serie di sondaggi, per me il più vistoso, quello sul teatro di massa, teatro popolare, meritano, ecco, che forse ci sia una nuova stagione storiografica, esplicitamente storiografica. D'altra parte abbiamo detto tutti, in alcuni momenti sembrava un convegno di persone che erano venute qui per criticare la politica del PC, in sostanza, abbiamo riconosciuto che questo movimento era interessante perché connetteva intellettuali, società civile, cultura di massa, come tale grida ancora i suoi diritti questo movimento, e quindi ha in qualche modo bisogno di un compimento, non nelle modalità di quegli anni ma in modalità diverse, e che quindi tutto sommato è ancora da ascoltare quell'epoca per capire. capire, diciamo, i problemi anche del presente. E questo pone un altro tipo di problemi. Il primo tipo di problemi è probabilmente più legato agli atti che possiamo fare, cioè un arricchimento storiografico. Il secondo forse richiede, come le domande che ci ha posto anche Clara Gallini, che stanno proprio tra, diciamo così, storia e presente, anche quella di stamattina, diciamo il tema della cultura popolare e della religione cattolica, che è un altro tema forte anche della cultura italiana di questo tempo, forse questi meritano di essere trattati in incontri ulteriori che magari concorderemo tra i vari soggetti che sono qui presenti, hanno capacità di proposizione, che sono più appunto nodi tra ricerca e bisogno di comprensione legato alla politica. E mi pare che queste due anime hanno reso il nostro incontro fertile, almeno per noi, perché non eravamo una rappresentanza adeguata della società italiana. Diciamo che i 30 sopravvissuti sono più che significativi di un processo di pensiero che avrà poi appunto documentazione scritta e credo anche un rilancio tra noi. Mi pare che possiamo, ecco, dare un giudizio di riuscita dal punto di vista conoscitivo e delle domande che ci facciamo a questo incontro. Su cosa faremo in futuro, forse Ivan ci darà qualche indicazione e lo farà chiudendo la giornata e ringraziando tutti quelli che hanno partecipato. Prego. Vabbè, intanto ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, ringrazio in modo particolare persone che non so se le conoscete, non lo conoscete, non ha moltissima importanza, ma ringrazio Stefano, ringrazio Antonio Panelli, Stefano Righetti, ringrazio Riccardo, che ha un soprannome perché i soprannomi stanno molto addentro alla storia, a una concezione di tipo antropologico, tanto è vero che Giuseppe Di Gare, ma senza essere un antropologo, è un grande fabbricatore di soprannomi, e ringrazio tutti voi che avete partecipato a questa cosa qui. E trovo abbastanza divertente, anche se volete un po' ironico, che insomma nel mese del mattino per me non c'è stato affidato l'incarico di fare un convegno sul folklore progressivo, il concetto di folklore progressivo in Ernesto del Martino, e mi pare un risultato assolutamente eclatante la distruzione del concetto stesso di folklore progressivo, sul quale sono assolutamente d'accordo, come sono d'accordo con Bosio invece sulla distruzione totale del concetto di folklore, cioè l'unica possibilità di piantarla lì con il folklore. Dico due cose molto molto rapidamente, che non so se ho già detto perché sono abbastanza rincoglionito, e questo lo considero un fatto anche questo molto positivo. Sono andato alla manifestazione dell'11 a Roma, l'ho già detto? Sì. Allora non lo ridico, non c'è alcun bisogno. L'altra cosa che invece mi prenderà di dire è questa. Rispetto alla cosa che ha detto Clemente, io mi chiedo per quale ragione, che non sia a questo punto assolutamente mitica, non so come, io rimango comunista. Rimango comunista nonostante sia assolutamente convinto che Carlo Marx ha preso delle sbandate micidiali, che il suo concetto di conquista del potere attraverso un proletariato molto affermato, forte e cosciente di se stesso, ma che però poteva avvenire soltanto attraverso un capitalismo altrettanto affermato, forte e cosciente di se stesso, io ho l'impressione che il capitalismo la sua strada l'abbia fatta, il proletariato un po' meno, però forse rimango comunista perché sono ignorante. Forse rimango comunista perché, non lo so perché se vedo un uccello mi commuovo, perché se vedo una pianta tento di parlarci assieme, perché se il gatto romeo si sdraia sul mio letto mi rompe i coglioni doverlo mandare via, vorrei poterci convivere, ma mi rendo conto che io sono comunista e il gatto romeo un po' meno. Ed è abbastanza difficile convincere il gatto romeo di questo comunismo. E rimango comunista anche per un'altra ragione, che solito un pochino più seria. che io ho collocato in un'area soltanto toscana, perché per ora soltanto in Toscana ho avuto la possibilità di verificare questo. Cioè, poi glielo chiederò, avrò modo di chiederglielo, ma trovo abbastanza strano in questa fase, in questo momento qui nessuno ne ha parlato, e allora con uno scritto a Clemente forse ci dovrebbe essere un ramo della psichiatria e anche della psicologia che dovrebbe occuparsi in maniera specifica dei problemi mentali degli antropologi, degli etnologi e dei demologi, che forse Battaglia non ha preso in considerazione, forse Maccacara, se avesse avuto la possibilità di andare un pochino più avanti, ci sarebbe arrivato. Cioè, io so che cosa è stato l'AMPI, lo sapete cos'è l'AMPI? L'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Cioè, una delle cose che ha avuto il processo di sfaldamento, di logoramento, di spappolamento più atroci che io abbia visto nell'ambito della sinistra. E a un certo punto essere unici, cioè, io sono iscritto all'AMPI, era diventato quasi sinonimo sempre. Cioè, sei uno fuori, c'è proprio uno. Oh. Devo dire che molti dirigenti dell'AMPI hanno fatto molto perché questo avvenisse, perché io se sento dire dal presidente provinciale dell'AMPI di Parma che l'AMPI non si deve occupare di politica, gli dico: tu sei un imbecille, perché mi devi spiegare perché i partigiani hanno fatto la resistenza, cioè facendo la resistenza forse i partigiani non facevano politica. No, sei tu che non stai facendo politica. E però vedo una rinascita, soprattutto a livello di giovani, intorno all'AMPI. E allora anche su questo, che cos'è questo folklore progressivo? Cos'è? Non c'è in quale sfera lo collochiamo? Perché non cerchiamo invece, se finché ci sarà la voglia, la forza, e anche la resistenza politica, di entrarci dentro? Senza possibilmente costituzioni preconcette sulla base di luminose o più o meno luminose esperienze che uno può avere e fatto, e cercare di capire attraverso quali processi di giovani oggi ritirano fuori questa cosa qui. E guardate che non la ritirano fuori perché Borelli ha detto resistere, resistere, resistere, o perché Santoro a un certo punto se ne va via stonando, è stato importantissimo dal punto di vista mediatico cantando una sua personale versione di Bella Ciao, ma va bene, cioè sono talmente tante che una di più non fa male, eccetera, eccetera. Quindi si tratterebbe di capire che cos'è che fa resistere questi giovani rispetto al presente in cui si trovano. E l'unico modo di capirlo è di andarci, di starci insieme e di cercare di probabilmente in qualche modo di liberarsi di tutta una serie di cose che noi abbiamo dentro. Poi l'altra cosa che volevo dire è che forse in una qualche misura siamo portatori più o meno inconsci di una serie di rancori. Perché? Perché forse abbiamo vissuto, io perlomeno la vedo così, insomma, una serie di tradimenti, cioè perlomeno in Italia, insomma, cioè io mi incazzo quando arrivo a 68 anni a capire che forse Palmiro Togliatti, quando vi parla della linea italiana al socialismo, non aveva tutti i torti venendo dall'Unione Sovietica e vedendo che cazzo di casini avevano combinato, massacri, cili, eccetera, e di tutto e anche di più. Di tutto e anche di più. Poi però sono qui che mi chiedo, e lo chiedo a voi, lo chiedo agli storici, lo chiedo anche agli antropologi, lo chiedo a tutti, ma perché i due grandi partiti della sinistra venuti fuori dalla resistenza hanno rinunciato a priori a discutere il modello di sviluppo di questo paese? Non è stato discusso, non è stato minimamente messo in discussione, ma guardate che il modello di sviluppo che è passato è quello per cui c'è un nord, c'è un centro e c'è un sud mandato a cagare. Cioè questo è il modello di sviluppo che non è stato discusso, politicamente non è stato discusso. E allora su queste cose qui, beh insomma, cioè io cosa volevo dire? Sarà perché Allora mi chiedo, tante volte me lo sono chiesto, i compagni lo sanno, ma che cosa mi serve l'istituto? Cioè che cosa serve l'istituto Ernesto Martino? A che cosa serve tenere lì i documenti quando tante volte vedi che delle cose che stanno andando in una certa maniera, sai, non in maniera deterministica o meccanicistica, sai che andranno poi a parare in un certo modo, sai che la storia li ha già passati in una certa misura, queste cose, non c'è un cazzo da fare, va in quella direzione lì. E non avviene niente, non avviene niente. Io ieri sera ho sentito Bertinotti in televisione, avrei voluto tirargli via tutti i denti perché non gli mancasse soltanto la R, ma anche la T, la Z, la Q, la K, la R, tutto, perché non ti rendi conto che stai parlando per te stesso, per la tua beltà. E però ho conosciuto gente che non parlavano per se stessi, per la loro beltà. La Clara Gallini non parla per se stessa, perché questo è un fatto che arriva da te. Adesso lo so che loro in tu beresti volentieri un bianchino, andiamo a bere assieme, ecco, è perché dobbiamo farlo. E quindi cioè, cerchiamo in qualche modo di tenere quello che abbiamo, di tenere quello che abbiamo, ma non perché è sacro, per la Madonna. Cerchiamo di tenere quello che abbiamo perché è l'unica cosa seriamente profana che ci è rimasta e con la quale forse riusciamo ancora riusciamo insieme ad altri a costruire qualcosa. Beh, io ho già detto tanto, poi mi incasino, buonanotte suonatori, quindi vi ringrazio tutti, abbiamo mangiato bene. La notizia più rivoluzionaria che ho avuto in questa giornata è che quel centro Atti dove abbiamo mangiato, quello che abbiamo mangiato per tutti ogni giorno costa soltanto 8 euro e questo secondo me va al di là di qualsiasi folklore progressivo, lasciatemelo dire. Vi abbraccio, grazie.